Franco. Ciao. Buonasera. Ciao Daniele. Ogni tanto ce n'è una. E allora, ogni tanto ce n'è una. E va bene. E cosa ci vuoi fare? Benedera. A piove? Qua poco fa sembrava che facesse temporale, e invece tu sei calmato. Ma il peggio è che deve ancora arrivare dalla Corsica. Beh, non si può stare a casa sua. Metti un ventilatore e soffia le nuvole. E allora, lì non ci vuole un ventilatore. Lì ci vuole un ventilatore di quei russi, minimo 200 metri. Cosa ci facevi nella banda C? Non lo so, Massimiliano, io stavo girando stamattina e stavo ascoltando un po' di canale e stavo muovendo le bande e poi mi sono perso. Finalmente, guarda le acque da lì, 2, 4, 6 mi sembra, no? Va dalla A e finisce alla F, perché stavo ascoltando inglesi, americani, che me la sorterano, che erano USB. Però mi sembra che erano in banda D. Infatti poi stavo guardando la tabella, e mi sono cercato la tabella, e stavo guardando e mi risultava banda C, la 27. Però sicuramente ho sbagliato io leggendo. Gappa, io sono un ricevitore, no? Li ascolti bene, vero? Aspetta, Massimiliano, sto guardando il video e non ti ho sentito, cos'hai detto? Guarda il video, guarda, avanti fa. Capo, un attimo che sto facendo cosa, c'ho un saldatore. Per esempio io che siamo a MacGyver, cosa stai saldando? Oh, sto facendo un PL un connettore al Midland, che non avevo un microfono attaccato. C'ho i microfoni però, per lui non ne avevo neanche uno. Gappa, e allora fatelo. Eppure Massimiliano, ho visto il video e gira bene alla perfezione. Se te l'ho detto, la radio è regolata bene. Adesso io non lo so, boh, guarda, io forse stasera salgo lì vicino da mia suocera. Ma la metto in macchina e te la prendi e te la controlli, non lo so. Io tanto più di quello lì non posso fare, io l'eco te l'ho regolato. E l'abbiamo regolata alla perfezione, hai visto? La radio gira bene, ma non lo sale, boh, non si compresa mai cosa. Eppure non ho toccato nulla. Quello non c'è problema, sì, ma figurati. È strano però. È strano. Chissà che sincope c'ha. Perché gira bene. Cavolo, sembra tranquillo, è che non sale di watt, solo quello è il problema. Però ho notato una cosa. Quando ce l'avevo aperta così, ho messo la mano sulla scheda e quando metto la mano su un condensatore fischia, capito? Adesso non so se sia che era già da prima così, però toccandola così fa un fischio. Com'è quello che faceva all'inizio quando l'ho ritirata? È una cosa del genere comunque. Cava. Non lo so, Massimiliano, non lo so. Allora salve, questa è la radio. Non lo so, ma tu il video l'hai mandato al tipo? No, l'ho mandato prima a te. Ma ne ho così, se la vuole bene, se no si la tronca la bossa ma. Vendi tutto. Aspetta che ti mando un messaggio, Cavarogio, ciao Tino. Buongiorno, vendi tutto. Vendendo stiamo, vendendo. Vediamo di recuperare qualche soldino, dai. Se no lì fra un po' la vendo a pezzi di ricambio. Va bene. Oggi il forfè è gatto, Massimiliano. Guarda, c'è anche Franco. Avanti, Fra. Franco. No, non posso adesso, dai, dopo. Va bene, miau, miau. Ma armeggiando sta Franco. È ripreso, ciao ti scusa che stavo mandando un vocale. Non c'è problema, ho detto forfì è dato oggi. Eh? Si è dato forfì. Forfì? Sì. Sono un bel casino ciò qua. Non sei andato oggi. O libera ce la vedi. Sono negativo, sono andato, ho lavorato fino all'ora di pranzo, mezzogiorno e mezza, ma era già dalle 10 che stava piovendo. Siccome stavo guidando oggi col dumper lo faceva, troppo fango e ci scendeva, che stai sempre trainando, allora abbiamo fermato. Beh, domani ci ha messo bella giornata. Domani sì. Già rabbì, Maria, e anche io oggi sono andato, ho fatto un paio d'ore più che altro, abbiamo preparato il materiale, stavo sempre piovendo, quindi. E per io pigiamo il verde, non è giorno oggi. No, e cosa fai? No, non fa. Leggi il messaggio, Massimiliano. Sì, aspetta, sto mandando a quello là che mi ha chiesto di mandarle qua. Capo Ruggero. E io 150. Anche di meno, se vuoi, per te. tu non ti sei di chiamare, Dino Usco. Dino 150. No. Mi ero Antonio, quello che avevo... era senza radio e te, forse di via questa, usati questo. L'altro ce l'ho qua, stato da gemello. Ma no, di quelli non, anche se colto, quello lì non mi interessa. Positivo, vabbè. Ok, sì, Daniele, dai, ho ascoltato il messaggio, gli ho mandato le foto e il video, va. Adesso le metto il tuo numero, così. Anzi, prima aspetto che risponda, poi le do il tuo numero, così ti arrangi tu. Capo Ruggero, va bene. Tanto la mando per via corriere. Ebbene, se io volevo andare per via mare, in bacinella. Capo la mando a Porto Torres a spedire. No, per posta no, per corriere, il sediale la spedisco. Sì, non cambia nulla. Può andare anche alle poste, è uguale. Capo Ruggero, ti consegna a domicilio per te. Gratuita. No. Ci potevo anche questo. 150? Anche di meno, là. Sì, via. Mamma mia, come soffia. Ah, sì. 150 con la camera ecco, qua. Sì, anche di meno fa, no? No, ma è troppo con la camera ecco. Mamma mia, chiara, Giù che tratto, diciamo, mi faccio la pennichella. Ma veramente è il tragitto che mi ha fregato, perché stavo andando. E poi c'è qualche uno, mi sono fermato, se no l'ero già spedito lì. Ma vado a bere un caffè prima, facendo giù la macchinetta, caffettino, e poi mi faccio un'oretta, là, se no sono sballato, mi sono alzato ben presto oggi. Chiaro, positiva, ma io facevo uscire alle 5 dove c'era il campo della Peroccia, quindi anch'io devo... sto preparando, tra una cosa e l'altra, adesso morfeo, ma c'era in desita, quindi... Chiaro, sono appena le 3, mamma... Vabbè, piano piano. Vai Franco, soldato hai. Franco impegnato, eh. Mi sono preso questo soldatore a Stagno, alla Lido, cazzo, ben da Rizzo. Sì, volevo prendere anche io. Com'è? Ma l'azione soldante è completa. Scusa, a gas però, No, quella ce l'ho già. Ne ho due, una della Lido, quella verde classica. E una gialla e nera, l'ho presa dalla GBC, quella mi pare. No, questa è a gas, ma tu devi vedere quanto è bello, ma bello proprio. Non saprei, non ho... Io cos'è, quello che sono a fiamma, non... Mi sembra che l'avevo utilizzato una volta a casa di Nuova, ma non mi ricordo se quello lì è. Allora, in poche parole, io l'avevo preso dai cinesi, l'ho pagato 10 euro, l'ho usato una volta, ha fatto un PL e poi mi si è sciolto il gommino che perdeva gas, quindi ti ha girampato. Adesso ti mando una foto per farti capire, questo l'ho pagato 9 euro 90. Chissà che duri per 9 euro 90, cioè, mi sembra troppo poco il prezzo, no? Magari è buono, non lo so. Io mi ricordo che una stazione soldante così, forse tempo fa però, l'avevo utilizzata, ma no, sono più un classico io con il soldatore normale. Ah, dopo lì, Massimiliano, se quando è finita, poi lo dici. Sai che finale monta il 747? Che cosa ti? Ti ho chiesto se sai che finale monta il 747. No. Allora, ce ne sono due modelli. So che ce n'è uno con due finali MOSFET e so che ce n'è un altro con quattro finali MOSFET. Lo so. Quello con quattro mi interessa. Perché mi ero notte che c'è qualche modifica da fare, cambiando i finali e poi facendo un altro lavoro. Però mi interessava sapere i suoi originali, dai, com'erano. Compare c'è di nuovo, nuovo o usato, perché tanto quei finali ti costano più del linearetto. Ma non ti credere, guarda, stavo guardando, stavo leggendo dei forum e non costano tanto, non costano tanto, ma ci sono anche in vendita a 2,1€ addirittura, però bisogna vedere se sono quelli, voglio accertare che siano quelli, la sigla, capito? La cosa morte, 19,46. Non lo so se è quello, non l'ho mai aperto io, quindi non te lo so dire, c'è da vedere se riesco a dirti quanto costano esattamente. Aspetta, vediamo un attimino, che cavolo era, preferiti, bla bla bla. Allora c'è un RF1, allora IRF520 e costa. €1,55. Ma io già lo richiedo, comunque. Ma cinesi so. No, addirittura quelli cinesi costano anche di meno, ma lasciano il tempo che trovano, perché non vanno bene. No, per farti capire, no, a me mi si era bruciato i finali di questo Magnum. Allora, questo mi sembra che monta i 20 e qualcosa, comunque sono sia prefinale che i due finali, sono tutti e tre MOSFET. Ok, li ho presi da eBay, li ho pagati €8 qualche cosa, cioè non è che li ho cambiati io, l'ho mandato su a Siracusa, l'ha misurato e non dava watt, cioè in poche parole questi finali erano sciolti, comprati nuovi, non davano potenza. Oh? 13,07, neanche €2 da fusare. E cosa sono questi 13,07? Del finale del linearetto 737. Quanto costa l'eletto? Neanche €2, l'uno. E allora basta metterci quelli. Però quelli del 747 non so se sono uguali, No, sono più grandi, più potenti. Questi danno 80 watt, mi sembra, mentre quelli 100. No, ma perché stai uscendo così oggi? Come sto uscendo? È un po' metallica la radio, un po' strozzata. Sì, vabbè, dai, stavo parlando con la... troppo lontano, poi forte stavo parlando. Sì, ho mai visto soltanto... Sì, accusano questi qua. Tutti? Ehi, ma somiglia a Rima. Il soldatore, l'hai visto, dai, cosa ti sembra? Bello, già è quello che ho usato io. È quello che ho usato io, sì. Vabbè, non lo so se è così o un po' più professionale, però già è quel tipo di... Sì, ho capito come funziona. Bello. Ah, è per fare qualche PL fuori, così, quando ti capita che non hai corrente, mi capito? Guarda, beh, non è una cosa che usi tutti i giorni, capito? Va bene, ok. Massimiliano. Sì, Nara. Guarda quello che sto usando io. Vabbè, ma chi se no... Me la cappa la gola che guarda che c'ho io. La mia è molto più professionale di quella. Lo so. Ah, va bene, queste... Ah, ci sono queste stazioni saldanti o fra. Ci sono dei big, o 59 euro c'è sia stagno che aspirastagno, tutto assieme, senza averne due, capito? No, ma io ne ho due perché... Allora... dove c'è l'aria calda, quello lì, il primo che avevo preso, e mi si era rotta la penna, mi si era rotta per saldare, e la penna non ordinata, mi ho ordinato un altro saldatore diverso, in modo che la penna era più robusta, capito? E quello là lo sto usando solo come aria calda. Eia, e funziona bene l'aria calda? Cavolo, ma un bebè. Eia. Avanti, Daniel. Cava, già son qua. Va bene, dai, riprendetevela due minuti. Cappa già. Sto uscendo bene adesso, il Mickey Gain come ce l'hai, Daniel? Allora, il Mickey Gain qual è? Il quello piccolo è? Sì, guarda che c'è scritto, il secondo piccolino. Ore 2. Allora, quando ce l'hai normale così, puoi anche aumentare, mi appena appena. Prova a aumentarlo un po'. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5, com'è? Adesso va meglio. Cosa dici ti? Sì, sì. Vedi, stiamo vedendo questa roba qua. Addirittura, 1 euro costa 1. Ci sono 2,60 di spedizione, allucinante. Va bene, prendi una ventina. Va bene, va bene. Ma se costano poco, che dice che Franco che li ha presi da Fusaro a 2 euro qualche cosa, vai lì e ti ripigli e la spedizione non la paghi, scusa, anche che li paghi 3 euro l'uno, to. Ma quelli sono del 60-70 watt, del 737. A noi siamo quelli di altri, capito? Quelli del 747, che sono un po' più grandi. Basta chiedere, senza neanche salire a Sassa, di fare una telefonata a Fusaro, se ce li ha, così vai sul sicuro, sali e te li prendi secondo quanto costano. Allora, ma sì, ragione mi sembra questa, IRF 520, dovrebbe essere questo. Le cantine erano bruciate, tutte e quattro. Sì. Tutte e quattro, ma non bruciate, spaccate metà per metà, che è differente la cosa. Intanto si è passato a tipo Ruspa? Con Ripa da 63. E suga. Gappa gappa, vai fra. Vabbè, è capitato anche questo. Vabbè, colpa mia, dai. Prendi il dito, 150. Così com'è? Devo mettere a posto. Posso scendere di 20 euro, non di più, E appunto per quello, va. Va bene, va bene, ok. Ma io non vado a prendere il caffè, ma gioco ancora io. Datemi 2 minuti, dai. Fai come la canzone, dammi solo un minuto. Davvero, me. Ti pigliami, è come te la garage o guarda anch'io. Vabbè. No, sono... stavo guardando quei B300, là. Ma cacchio, costano un po' di soldi, Non le regala più nessuno di cosa? No, non dico il regalo, ma a seconda mano, a pagarli 240, 250 euro, insomma, mi sembra un po' troppo esagerato. No, così è troppo, e beh, no. Centinaio di euro, e poi dipende come è. Poi io ho visto un B300 stamattina, intorno alle 170, 180 euro. Quello quanti fate da? Se non mi sbaglio, 160, 180. Questo c'ha picchi di 180, già l'hai visto il video. Però l'ho attaccato al 25 ampere di alimentatore, ma ha bisogno di qualcosina in più. Non avevo voglia di attaccarlo a quello grande, la verità. Devo girare, fare. L'ho attaccato in quello, e in quello c'avevo anche la radio attaccata. Quindi quando arrivava a 180 si turdiava. Ah, ma tu mi stai dicendo quello tuo? No, il B... che si chiama? Il B300, quello colorato che... quello col frontale marrone, 6 posizioni, quello roba lì. Dalle 150, 160, questi salgono un pochino di più, questi sono della CTE. Quelli stavo guardando. Ne ha venduto uno Leo l'altro giorno, non so se l'hai visto, l'ha pubblicato, Leo Barone Rosso, uguale a questo. Gli ha messo l'adesivo, Leo Barone Rosso, la cottura pulita, me l'ha dato. 170 euro l'ho venduto, gli ho mandato un messaggio per quanto l'aveva dato. Va bene. Gappa gappa, dai, datemi 2 minuti e vado per il caffè. Vai Franco, Daniele, buon, riprendi voi un attimo. Va bene, adesso faccio una foto, la mando a Ciccio, così almeno si guarda se le caratteristiche sono quelle. Gava gava. Tanto fra. Ah, tutto un casino. Ah, già fatto tutto, non c'è più gas. Cosa sei buttato? Ora stavo facendo una radio vecchia, di vecchia latta, un microfono, ma non la giocata, non faccio bagliare se così. Ma sempre quel microfono di ieri, Perché? No, ho detto, sempre quel microfono di ieri stai sistemando. Ah, no! sto usando adesso. Ah, cava, cava. Quello di ieri l'hai sistemato, sì. Qua. Cava, cava. Già va bene, già va bene. Dino. Dino le prende fotografie. Fotografando sta. Allora, provo a vedere se esce il fotogenico. Beh, signore, dai, anche io mi devo allontanare. È risolto fra. Guarda che sta piovendo e non puoi andare a lavorare. No, ma infatti io non sono andato a lavorare. Sto andando a... C'è questo qua che si chiama Morfeo, mi sta chiamando da poco fa. E gli dicevo, aspetta, aspetta. È così, boh. E va bene, no? Vai a fargli compagnia. Non so, poi si offende non mi parla. vabbè, dai, giusto, perché tanto devo uscire alle 5 dal prossimo campo della Peloce, che c'è mio figlio che gioca oggi, quindi, e poi passo la serata lì, un po' di riposo, me lo merito. Quasi quasi ti mi prendo il campo, non mi deve essere scolato. Va. Se ti faccio la fotografia di come sto volando io ti metti a ridere. Ah, questo è un amato. E vabbè, no. Tanto, non la chiamo, non li abbiamo lasciato. I baracchini sono più belli, che? Nì, perché io ieri ho parlato con... allora, con uno di Napoli, no? Con questo... Non ho l'aiutino, quindi con questo sì lo sentivo, ma sai, un po' così, ci ho parlato per un bel po', dopodiché non mi sentiva più, lui non mi sentiva più, però io lo sentivo, allora ho attaccato a lui e ha migliorato la giornata, sia la ricezione che la trasmissione, quello è poco ma sicuro, già lo sai, no? Sì, quello già è vero, c'ha un po' più di... si ripete. Ma io cazzo da ciao. Cortalo, cazzo. Dimmi, ti faccio il telefono. Ma che ti ho mandato la fotografia così vedi in che condizioni sto muovendo io. Ah, giusto perché per farti vedere nel... dove c'è io la radio. Quello di su è sempre spento, sto muovendo con quello che c'è acceso, è buono, no? Sì, va bene, dai, tu perché cioè, hai messo uno sull'altro, quello là, l'inco, quello là, col coso, e va bene, e il capo sopra, e lì ci vuole un seggiolone alto lì per quelle da bar. No, che il microfono ce l'ho vicino a me, la radio va bene, però... c'è lui a portata di mano, però mi sono messo da una franciccia, ma no, questa è tutta una cosa, sento un po' provvisoria, che spero che non rimanga per sempre, perché ho intenzione di chiudere una specie di, ho due entrate io, no? E una che dà dalla parte della sala che sono adesso, e l'altra che dà invece dalla parte della cucina, sempre alternamente. E quello che dà dalla parte del salone, avevo intenzione di chiuderlo e fare una sorta di stanza, non esce tanto grande, uscirà, che ne so, sarà 3 metri per 2 e mezzo, adesso non mi ricordo le misure esatte, e stavo pensando di chiudere così, fare un giro di blocchi e fare una stanzetta lì, capito, giusto per non fare al rumore del casino e quant'altro. A proposito che ti volevo dire, lo sai che ho preso le due casse piccole del computer, cioè il buffer grosso ce l'ho là, ce l'ho, e l'ho messo qua a Lincoln, l'ho messo, oh, sento in stereo sembra, bella, bella la modulazione, ricevi veramente bella. Ah, perché sì, perché quella lì mi sembra che sia amplificata la cassa, le casse. La cassa grande è amplificata, ma le piccole no, le due piccole no, perché le due piccole vanno collegate con lo spinotto dietro alla cassa grande, quella è ampli- piccata. Però voglio provare. Questa è l'idea. Voglio provare. La carica è la cassa grande qua, vedete. Prova. Va bene, dai, vai. Che mi sdraio un pochino, sono un po' stanco oggi. Ho fatto un po' di cose veloci, poi mi sono fatto anche a tre. Mi rilasso un pochino e poi devo andare al campo. In campo. Divertiti. Oh yeah. D'accordo, dai, sentiamo stasera magari se coincide. Ciao Tino. Ciao T, buon proseguimento, a dopo se coincide. Ehi, ciao Daniele, ciao. C'è qualcuno, è rimasto qualcuno? Che ci sia. Gappa gappa. Appena fatto caffeina e adesso ho un altro paio di passaggi e poi me ne vado un po' a riposarmi al divano, sono un po' a mal di schiena. Guarda che quello che rompe di più. Cosa? Il divano rompe di più. E mi andando il lunetto. Ecco. Così va bene. Se non mi mette dei cocchi, non mi fanno che droga di più. Già è vero, già è vero. E ma se c'è il divano comodo non ti droga, sai, Gappa, gappa. Vabbè, la devi fare. Andiamo a riposare un po' la schiena. Gappa. Ehi. Così ero io quando lavoravo tutto il giorno su quel carrello elevatore a Torino, a Masallassa, a Garrighene, Venne, ma in Olammar, ed ero sempre a mal di schiena. Da quando sono andato in pensione, mi passeggio, boom, una schiena. Ah, che non è? Cava. Sì, invece il 45 cos'è? Nella E? E io. Cava. Allora, questa tabella adesso è smallante, perché qua mi dice che è nella D. Allora, io adesso sono in banda D. K. No, adesso guarda questa tabella che c'ho, stavo guardando su internet. Che è quella che stavo seguendo stamattina, che poi mi ha fatto perdere. Perché qua mi dà il 45 in D e in C questa. Te lo dico io allora. Allora, il presidente Jackson è così, perché io ci ho avuto anche quello. Se tu metti in banda D ti dai i canali di sopra e metti in banda C ti da questi, i canali cittadini, diciamo. K, non so che cosa sia riferita questa tabella, la prima che ho trovato. Va bene, e mi ha fatto perdere la bagaglia sua. Vabbè, tu ricordati comunque che in banda E sei nei canali di sopra, poi continui in F e ti dovrebbe portare, adesso ti dico subito fin dove ti porta, aspetta. Va, Rogero. Allora, ti porta a 28305. Cava, va bene, basta che mi ricordi di L e sono a posto. Sì, ma la F sei già in 10 metri, capito? E però lì ti devi mettere i 10 kHz quando devi ascoltare lì. Eh sì, quello si mi ricorda, avevo uno in furgone che c'avevo 10 kHz, le bande così lo stesso. C'ho un portatilino che si va fino a 30. Isso, 30 a 105 arriva. Però aspetta, però bande laterali non le ha, solo AM, FM. K. Anda bene veda. Ah, Franco. Massimiliano. Eh? Sai che ti ho mandato un elenco? Mandalo a lui. Ok, io sto girando. A modo di stamparselo. Daniele, guarda, ti ho mandato una foto. Adesso ti giro il numero di Daniele, Fra. Sì, Daniele, gara. Adesso, quando mi arriva, la guardo. E questo chi è? E chi? Oh, sento una voce sotto. Capo? Non capisco se è francese, spagnolo, ma la nocia. Ma mandato mai Massimiliano. E io? Aspetta che guarda, ma non è arrivato nulla. Cappa, adesso mi è arrivata, vai. Ecco qua. Va bene, sì. Questa è giusta adesso. Ti è arrivata, Daniel? Cappa Rogero, ma questa è giusta. È giusta, Daniel? Sì. Quella era tutto al contrario, cavolo. La D mi risultava nella C. Capito? Era una banda indietro. Invece il CV doppio come va usato? Ah, boh, Massimilia. Io non faccio mai compreso nulla. Fra, tu sai qualcosa? Ma il CV doppio non lo so. Ma il CV doppio è telegrafia. Boh, non ci ho mai capito nulla. Come lo fanno? Cioè, hanno il tastino anche sulla radio. No, il CV doppio è al telegrafo e fai l'alfabeto Morse, no? Dico, quindi al posto del microfono attacchi due trigiamme sul coso. Per fare l'alfabeto Morse. Al posto del microfono fai ti ti ti ti ti. Non ci capisco niente quella roba lì. È un alfabeto Morse, va. Però quando tu metti la banda CV doppio sulla radio, su che canale devi andare non si sa. Non lo so, io penso che sono loro che i radioamatori cosa fanno? E scelgono una frequenza e si scelgono e poi si mettono a fare questo qua, questo PDP. Sì, è come apposta di parlare col microfono per dire al 10, al 5, all'8, tu attacchi quello e parli in alfabeto Morse. Ah, ho capito, ok. Va bene, però anche io non voglio mai compreso nulla il suo corso. Tu pensa che sono arrivato al corso a fare alfabeto Morse, CV doppio, così, a scrivere le frasi. Era bellissimo, è che non mi ricordo più nulla. Studia. Adesso prossima sessione, già vado. Te la senti? Sì, Massimiliano, ma più che altro per una questione di radio, di apparecchiature varie, dai. Se no mai fare attività radioamatoriale me la fotti nuda. Ehi. Per essere più tranquilli alla fine, capito? Per usare potenza, roba del genere, per usare il teleradio che vuoi, poi di stare da altre parti no, non mi interessa, capito? La penso a Claudio alla fine, cioè, a stare lì, sì, ti puoi fare delle chiacchiere così quando trovi qualcuno, ma qua e qua. Lo so, vabbè, comunque. Anch'io c'avevo il libro, ho studiato per un po' da Buonasera Mullati, devo essere sincero. Un casino, Massimiliano, un casino, un bel di regole, un bel di formule. Vabbè, io meno male, sono cose che avevo già studiato all'epoca, ma beh, ricordatene. E poi bisogna fare con calma le cose, non puoi iniziare un corso non è roba da fare in 2 o 3 mesi, no. Devi iniziare adesso almeno un anno prima. Se ti metti l'impegno a studiare non c'è bisogno di un anno prima. Pure quando lo studia per la patente, un anno per buona a pigliarsi la patente di lavacchi. Ti metti sotto e studi. Già lo so, Massimiliano, lo so, ma va. C'è un bel di matematica, un bel di formule, un bel di cose da sapere, da rinfrescarti. Tempo ci vuole, tempo. Kappa. Babbo, dai, signor, magari riprendo dopo, ok? Dai, io vado a sdraiarmi un pochino, là. Ciao Franco, ciao Daniele, che fosse in ascolto qua, ok? Daniele, poi se in caso hanno già guardato il video, mi fanno sapere. Kappa Roger, dai, fammi sapere se hai notizie, poi già ci sentiamo dopo, anche adesso mi faccio bianco. E tra un po' devo andare a fare una commissione, ci ascoltiamo più tardi, a metà serata, dai. Va bene, ok, ciao Daniele, ciao Fra. Ciao. Ci sentiamo. Daniele. Ehi, Fra. Ti giro il mio numero. Kappa, te l'ho mandato il messaggio, Massimiliano, sì. Yeah. Kappa Rogero. Mandamelo su WhatsApp. Fra, mandato l'hai. Oh, non sto scrivendo. Ah, Kappa Rogero. Cambio. Te l'ho mandato, Daniele. Kappa Rogero, Fra, arrivata adesso. Adesso ti memorizzo. Gara, a posto Fra, memorizzato. Kappa, poi ti mando una cosa. Kappa Rogero, va bene Fra, dai, che io mi devo allontanare. per un pochino. Ci sentiamo a metà serata, dai, o anche prima. Ah, va bene. Adesso ti sto volendo un'altra cosa. Gava, va bene. A dopo, fra. Già, ci sentiamo per telefono. Ciao. Demonio, A proposito di demoniaco, ho visto una cosa su internet. praticamente metti questa macchina in full e in salita cammina da sola senza nessuno dentro, cammina e si blocca proprio dove c'è una lapide. E praticamente la macchina scende in fuori, una volta che arriva la punta dovrebbe riscendere di più, invece si blocca tutto. Stranola già. Oi oi oi oi. E cosa aveva Massimiliano? Cosa? Ho detto, cosa aveva? Se sai che cosa aveva ti metti a ridere. Il potenziometro? No, tu hai cambiato le viti della, come si chiama, delle slitte, è vero, gliele hai messe più lunghe. No, quelle le ha messe Albino, quelle viti. No, lì le mettesse dentro un capo, la causa. Stava toccando la vita. Cazzo, allora. Allora, io mi sposto di canale e ti faccio un video. Vai, Massimiliano, caparrogero. Va bene, riprendi già. Ah, ma sei contento? È questa che stai usando, di chi è tua sempre? Cappa. Ma non è modificata. Come no, aspetta. Guarda un po', Gianni, senti qua. Ma ne hai due modificate. Una, aspetta, sto anche mangiando, aspetta. Una la sto imbarcando forse, capito? Ah, si è buttata un po' di dentro. Questa è una cupa, questa non prende i colpi almeno. Che macchina è questa? Questa è l'Ara 87. Ah, cavaga. Però se tu sei qua io mi sposto anche di un canale, su o giù non ti sento, capito? Uno prima, uno dopo, qua non sento nessuno. Ma la che sta usando Massimiliano non esce più forte, bene. La sta, si sente bene anche questa, però la faccia un eco più lungo, forte come radio. In questa devo aumentare ancora già. Se la metto qua, hai capito? Io stando con 2 watt e Rick Gain non è neanche a metà, diciamo. Guarda, è appena presa la Massimiliano, hai sentito prima è l'altra mia. Poi dipende anche dalla voce, già, Massimiliano, hai visto come fa la voce grossa, lo fa girare, capito? Cosa hai fatto? Ma per dire, se voglio... Guarda un po' già, cosa dice adesso? Più forte è la radio. Cambio! Questa meglio gira già. Quella là sempre ha la coda più lunga, eccetera, però va bene anche questa là. Ehi, vabbè, ce lo posso, aspetta. La coda si può allungare anche lì, eh. Come quella del girino, fatela. Cambio. Vedi adesso, Massimiliano, come si sente proprio l'effetto bello, bello corposo della coda? Sì, perché mi sono messo in cuffia e l'ho tutto regolato di nuovo, dai. Si sente proprio, mentre tu parli, si sente proprio il vu, capito? Così Dio, tutto rosso. Quindi ascolta, io ti metto 2 fittine così, piccoline, e io di queste slitte neanche te ne aggancio. Eia, Massimiliano, perché non ne avevo da sostituire di fitti, capito? Dovevo procurarmele, ma non ce l'ho fatta ancora. Gappa, guarda, tutto roccio. Quello si è fatto sentire, no, Massimiliano? No, gli ho mandato il video, ma gli avrei voluto mandare questo adesso, ma vabbè, comunque, è uguale, no? Ma ne hai 2. Sì, ho la vita, la radio, si lavoro e chiccia. Gava, va bene. Quello lì, se vuoi, la facciamo lo stesso con la coda lunga, eh. Sì, ma quello lo metti lì, io qua non mi sento. Per me gira sempre qua col ballascolta. Come gira sempre? Ehi, vabbè, se io lo sento, sì, quando non mollo lo sento sempre girare, capito? Prova a vedere, fai il cambio, lascia stare la portante. Cambio! Anche quello già è bello, là. Hai visto come? Io lo sento sempre girare, capito? Sento piano piano a calare. Adesso provo a agganciarlo, aspetta. Anda, vai, prova. Gianni! Ah, ma sei contento? Cambio! Azz, a tutto giri, al suo motore sta andando. Cambio. Ha voglia che gira, Massimiliano. Ha voglia. Va bene, Gianni, da te va bene. Questa per me è meglio dell'altra, te lo vedi? Va benissimo. Questa va meglio dell'altra. C'ha una voce più corposa e la coda delle coperture. Ma di quale altra stai parlando? Quella che sta usando Daniele. Sì, a me già, abbiamo anche due timbri di cose diverse. Magari anche la timbrica, vero? La voce vuol dire molto, Migia. Più grossa, più acuta. E poi Daniele c'ha il vizio che quando modula così, cosa succede? Che lui non gliela allunga, capito? E quindi lui parla normale e quindi cerca, l'eco cerca di accavallarsi. Oh, il suo cazzo è picchi che ci ha allucinato. Arrivati di solo il video, dai. Aspetta, Massimiliano, che guarda, stavamo... Sì, adesso sono arrivati. Aspetta, mi riguardo. Metti su YouTube, che così almeno tra poco. Nel tubo ce la metto quella radio qualche giorno. E calma però che si spazi così da sola, capito? Che vada fuori, che non fuori regolazione, è strano. Ma lì l'ho regolata una volta così, e a volte vabbè scontrerate cose un po' le manopole, cose, però bene o male è sempre lo stesso. Oggi non sta entrando nessuno, chissà perché, in sciopero. Ehi, per freddo oggi. E ha fatto un calcio questo, sta a casa, ecco. Sono in casa, non c'è freddo, io non mi muovo da casa, ha detto la parata. Dovrei andare anche a fare un po' di spesa, ma non aiutare. Mamma mia. Ma, sai che non posso subito di mangiare. Cicilla, la Lido l'altro giorno mi sono preso San Antonio a gas, per da Lido, ma non è come quello cinese, eh. Ah, quello a gas è da saldare lo stagno. Via. Cacchio, Massimiliano, ho visto il video, allucinante. Ah, va? Cacchio. Hai visto? E io, 150. Chi è? 68 con l'MB25, lascia perdere il segnale, ciao a tutti. Buono, buono, capo. Com'è la radio, buona? Cosa, capo? Ho detto se la radio è buona. Sì, sì, per me è buona. Ma che parte è, Daniele? Capo Roger, buonasera, cla. Ottima per la truppa. Va bene, Gianni, lascia perdere il segnale, che sono qua la direttiva. Non posso staccare il cavo alle 4.40. Com'è la radio, Gianni? 68 MB più 5. No, va bene, va bene. Non è male, dai. Certo che l'abitata sei tutti col che uso la sangue, ma va bene, non posso dire. Sì, vabbè, cazzo, ma non è che si pomodoro è sempre col che uso, questo non è mio, di Massimiliano. Va bene, dai, te lo volevo far sentire, devo prendere roba dalla macchina, l'ho visto e l'ho preso e l'ho attaccato l'MB più 5, lo sto provando, eh. Va bene, buon proseguo, Gappa. Che baracchino è quello, Clau? Alan 68. Cava, cava. Avanti, lasci via. Gappa Roger, lascia bene, Ocra, lascia veramente bene, c'ha dei picchi e belli anche. Vabbè, sta spingendo questo, l'MB più 5 che avevo comprato da Gigi, cioè Tonia 2 e la preamplificazione 5, va bene, mica viene a manetta, ottimo per la truppa. Hai provato, Ocra, quando parla a Daniela, a spostarti di qualche canale se si sente qualcosa? Sì, ma leggermente meno del 48, è la verità, meno del 48. Io gli ho messo apposta a Daniele questo. Quello sta girando veramente bene adesso. Sta girando veramente bene, chi lo prende fa un grande affare. Io, guarda, te l'avrei preso adesso, Daniele, ma non le posso usare modificati perché disturbo. Se no te l'avrei comprato adesso quella radio, proprio adesso mi sarei venuto a tuoi soldi a dare la radio. Ma non me ne faccio niente, a comprarla e metterla dentro l'armadio. Cacchio, e poi prende una sincope a quella radio se non gira. Gira, adesso non è altro problema. dai, con 2 watt spinge intorno ai 20 e 22, con 2 watt. Ehi, lo so, no, questo sta dando 9, 12 watt fischiati, 10 watt modulati. Buono, buono. A chi? Chi è? Ehi, passo, ti sento, perché io sono in direttiva, non sono con l'antenna, verticale, non mi senti tu? La radio cupa, non può essere cupa la radio. Ah, ho capito cupa, perché mi sono ascoltato in cuffia. A me non mi piace uscire, quando è cupa non mi interessa. L'ho provata e va molto bene come radio, spinge abbastanza. Avanti Massimiliano, riprendi, cosa stavi dicendo? No, niente, dai, io gliel'ho tutta rimessa a posto e... anche l'eco, non so come sta andando adesso, dai. Sono stando anche a Luccariello, ciao Luccariello, cambio. Massimiliano. Cosa, Luc? Mi senti? Insomma, un po' così, dai, tutto trolliato, sì. Tutto trolliato. Ascolta, Massimiliano, come ti arrivo con l'antenna dei 10 metri? Bene, 7, 8, 5, quant'è? Fai da 6 a 9. Minchia, va bene. E da te, Gianni? 6, 7, 8? Sì, da 6 a 6 e mezzo fa. Cosa? Assolutamente, mamma mia, ragazzi. Ma perché non ti porti il baracchino tuo lì, cazzo? Se l'ha appena mondetta sul cazzo di baracchino. Ho detto, quanto ne vuole, Daniele? 150 euro. Che non fare? Cazzo, c'è un affare. Era un 48 cortemi. Cazzo, c'è un affare. Ma non un affare, un affarone. Guarda, l'avrei comprato adesso mi. Ma non me ne faccio niente perché non ne posso usare io. Disturbo, capito? C'avevo l'87 di Massimiliano, mi ha dato a provare e a vedere come andava. Cazzo, stavo disintegrando il condominio e l'ho staccato. No, non ne voglio rotture di balle io. Parla Massimiliano. Oh, Luccariello, vedi un po', cambio 2 watt di portante, 20, 22 modulati, cambio. Ma ci vogliono le mani giuste per fare con le radio, non bisogna mettere mani dentro se uno non sa da quello che deve toccare, capito? È così, avanti Gianni, riprendi. Bianco un secondo. Ah, perché stai prendendo così poco, Dani? Con le radio ne prendono 350, 400 e 2150, però ma avrei messo su subito su queste cose qua, che l'ha venduto di più. Sì, già un tempo si vendevano gli alla 48 a 400 euro, adesso a 400 euro compri radio superiori, 250 euro le trovi, quanto li vuoi di quelle radio? Anche di meno. È vero, basta farti un giro già, entri su eBay, entri dove vuoi e te li tirano a fianco quelle radio. Ma non sai come girano, capite? Gente che ha dato pensione se ne sta perdendo, cantanisti che sono andati in pensione se ne vende. Già, ma no, 48 non va più perché a casa non lo puoi usare, è un casino, solo chi lavora lo può usare in macchina come ci avevi tu, ma Daniele sta prendendo tanti di quei colpi e quindi se lo sta vendendo e se ne ha preso una più, o se ne prenderà una più, che vada meglio di quella, capito? Sì. No, il mio non disturba perché l'ho attaccato anche con i lineari qua, non mi hanno mai detto. Luca, aspetta, Luca, fai due. Ma era fuori frequenza, non aveva detto nulla, non sentivo anche bene, non sentivo fuori frequenza. Ma se ogni volta che entra la casa di Marina glielo dico, cazzo, ma portati il baracchino tuo se devi rimanere lì, lampa zio sul baracchino, tutto fuori frequenza, cazzo. Ma vai, neanche stava arrivando. Oh, Bianco, un secondo, mi hanno chiamato. Positivo, dai, tutto l'occhio, Claudio, dai. Vabbè, comunque sto usando bene quel 68, Io c'ho il P5, ce l'ho. E poi lo proveremo qua. Io te lo sto facendo sentire, in modo che lo senti. Capito, il lavoro è stato fatto, i watt sono giusti, ce l'ho attaccato alla T230 da Keyword, sono 9 watt di portante, fischiati 12, modulati 10, picchi positivi a 10 watt. ottima ricezione, funziona benissimo. Infatti i coperchi che vogliono rifatti e basta. Frontalino nuovo e tutto a posto. Sì, ma già c'ho anche gli adesivi io per il frontalino volendo. Mi sembra che l'avevo anche dato a te, mi pare. Sì, a me mi hai dato due, non uno, però io non li ho mai attaccati al mio 48 perché lo voglio originale, che ho visto che originale, mai stato toccato, nuovo, lascio stare così. Capito? Ma questo il frontalino è nuovo, perché devi mettere gli adesivi? Le fai i coperchi, un bel grigio scuro, il suo grigio tipo celestino, quel grigio scuro che ci sono le bombolette, fatto bene, la radio nuova. Caparro non ce l'ho, dai. Va bene, guarda, è un peccato, questa radio va. 40 euro di bovelli va, cazzo, questi trasparenti. Questi avevo presi da Sabattino, Daniele. 35 euro li ha pagati questi pomelli. Ti ho detto Massimiliano che sarei andato adesso da Daniele. Già hai visto cosa ti ho fatto vedere, no? Non è un problema di quattrini. Sarei andato a prendermela adesso, però non mi interessa, no? Non fa. Cazzo, per prendermi quello mi avrei preso quello tuo, no? Se permetti. Ma non fa, è inutile che lo prenda, lo tengo dentro l'armadio, pappagosa. Fa di che va giù, cazzo a voi l'attacco e mi do una telefonata all'amministratore che sto disintegrando il condominio. Ma si vediamo, non fa, non mi voglio rotture i balli io. Ma non sai cosa è successo a questa radio poco fa? Ieri io l'ho tutta fatta come Dio comanda, l'ho chiusa, l'ho staccata dall'antenna, l'ho messa sopra il mobile lì, staccata dall'alimentazione, mi hanno chiesto un paio di foto, un paio di video, gente che la vuole, tanto l'attacco non funzionava più l'uta, cioè dava un watt e mezzo di portante bianca, 10-12 modulati. Tanto se sai cosa è successo ti pone le mani in capo. Allora, hai visto quelle i binarietti che si mettono laterali, no, del baracchino? Cazzo, almeno li ha messo le viti lunghe e toccavano sulla scheda e ha fatto un casino nero. Adesso non lo seguo più all'Albino a volte. Le viti vogliono corte, cazzo. Corte, anche perché poi deve la guida deve scorrere, capito? Vogliono corte, sì, Maria Gara, fa carità. Quindi tu mi hai detto le guide, quelle, se ho capito bene, non vorrei sbagliare, le guide, quelle che sono attaccate al baracchino ce le hai, giusto? Sì, quelle grandi, diciamo, a me servono quelle due che scorrono dentro quelle grandi. Io ti ho messo nella busta la staffa già completa con le due guide che scorrono in quelle grandi, mancano solo i pomellini per avvitare. E quelli già ce li ho io, non c'è problema. Ti ho messo la staffa, le nuova, ne avevo due, non so perché. Sì, perché ne ho avuto due di 48. Va bene, una del mio e l'altra ce l'avevo. C'erano qui, ci sono quelli lì attaccati, comunque l'ho già messo dentro la busta, vai. Già va bene. Allucinante sta direttiva, 1-1 stazionale, senza accordare, senza niente, 1-1 stazionale la direttiva dei 10 metri, da 3 elementi. È buono. Quella è il sistemino piccolo, no? Quella che ho montato l'altra volta che ti ho detto. Va bene, avanti Gianni, mi senti? Sì, ho cambio radio Gianni, va bene? No, aspetta, prova a puntarla verso qua, Claudio, a vedere com'è. No, già, non c'è motore lì, è fissa a 280 gradi, è verso i punti, verso là in mezzo, là, verso Stintino l'ho messa, più o meno. Non c'è motore lì già, è quella piccola, capito? Non è tanto piccola, comunque non c'è motore, l'ho staccata. Ah, capito, no, oggi mi viene a cambiare, mi ascolto lo stesso, ti ascolto uguale. Comunque, io ho tutti i ricambi nell'ala 48. Ciò coperchi, staffa nuova, viti, io sapevo di roba. No, lui è nuovo già, è dentro la busta, comprato nuovo e messo dentro l'armadio, ma già lo uso io quello, non c'è per adesso perché siccome questo qua era in riparazione che c'era i finali bruciati, l'ha fatto riparare Massimiliano e l'ho ritirato io e ce l'ho io e lo devo portare, però mi ha detto l'altro giorno fammelo sentire a me come esce, adesso oggi non avevo niente da fare. L'ho messo sopra il 275H e lo sto facendo funzionare, per farglielo sentire, capito? Però sono con l'antenna, con la direttiva, perché il commutatore l'ho tolto, quindi c'ho l'antenna diretta al 4.40, al 4.30, mi viene male staccarla, ma già va bene, l'importante è che si senta, eh. Sì, sta andando bene. Già, ma sono in vendita questi coperchi o che cosa? No, sono tenuti perché c'è un volo load, cioè praticamente era partito tutto, c'era bruciato, quindi mi sono preso le parti che mi interessavano, c'era un copericampo. Certo che cosa, se capita me li vedo, non è che ce li ho così. Sono nuovi di zecca, è tutto nuovo, nuovi, nuovi. Gappa, e cosa ne vuoi? Perché poi ti dico cosa costa le coperchie. Tu dimmi che quanto ne vuoi. Non so quanto possono valere. C'è tutto vinti, coperchi, vita. 150? Che cosa? Buonasera, ho detto 150. Ah, è vero, ragazzi, Tino che c'è il 150. Certo, Tino compra tutto a 150. Buonasera a tutti, vabbè, ma è uno con le portate, poi. Cosa? Ho detto uno con le portate, poi, o la vuole spacca. Lo so. Io sto usando il 68 con l'MB più 5, come mi ascolti? Non guardare il segnale che sono con la direttiva, dimmi. Ti ho sentito, sì, ma sono accorto che il segnale non è il tuo. Va bene, sto ascoltando col Pluto. Una bella modulazione, e poi questi MB più 5 con il 68-48 vanno molto bene, non ce n'è problema. Va bene, cra, di lusso. Tu hai detto a te che tu sei più pignolo di me, quindi mamma l'ha detto anche Massimiliano, Gianni, però tu c'hai sempre quell'orecchio alla Marlon Brando, peloso. A ricevi buco, no? Andare. No, orecchie fine. Orecchio di quelli fini, no? Che ascoltano molto bene. Va bene. Ah Gianni, quindi hai... No, a me non me ne serve, non lo so. Se devi vendere, mettili su internet, se no le vendi. Ma quelli Massimiliano sono nuovi, e che sono tutti graffiati, poi sono neri. Bisogna dare il colore suo quasi originale, dai. Viene una bella radiolina questo. Adesso è nuova, c'è frontalino nuovo. Oh, cazzo Massimiliano, si illumina se non i bomelli come il mio. No, perché quella è la serie che non è illuminata. Ah, ma anche il mio 48 è la prima serie, però i pomelli si illuminano in arancione, tutto arancione, capito? Sì, perché il tuo non è la prima serie. La prima serie è quello che avevi dato a coso, alla buona arriva di Silvestro. Ah, quello che c'è già nel dischetto, bravo, sì, bravissimo. Vabbè, io sono anziano, un po' smemorato, sì. Quella è la prima serie, e poi abbiamo comprato la seconda serie, nuova, che ce l'ho dentro l'armadio, che non è mai stata modificata. Va bene, avanti, doppio rutto. Ciao Tino, ciao, ho sentito anche a te, dai. Ah, niente, neanche non gli avevo regalato tutta la parte che si illuminava. Guarda, già, ci sono coperchi originali Midland su eBay, sto guardando, Alan 48, 14,90€, tutte e due. Se sono da una fine, perché 14,90€ è una parola. Io ho tutti questi, però non solo i coperchi, ho la stampa, ho le slitte, c'ho tutte le video originali, quelle piccole che vanno nelle stampe, tutto qua. Comunque, c'è le due prese che convengono, però bisogna essere sono graffiati, queste sono le fatti, queste sono nuovi di lei. Già, sono nuovi, guarda, ti sto mandando qualcosa. Ecco, Ma bisogna sempre tenerla qualcosa, sennò è un casino. Io, vabbè, a me non mi serve perché è mio nuovo, te ripeto, sennò se mi serviva non me l'avrei preso io. Avanti, Daniele. Capa Rogero, vecchi. No, con questa a casa sono rinato, ho provato poco fa a spostarmi qua. Tu modulando, io andando a destra o a sinistra non ti sento di una virgola. E vabbè, sono col 68 la direttiva. Provo dopo col 440 per se mi senti. Però io l'ho provata, quella è molto selettiva, perché Antonello a volte modulava nel 23, io sul 10 non lo sentivo. Tanto l'Aran 48 si spegneva da solo. Cacchio, qua, vabbè, fosse stato il problema tra me e te e tanto quanto, ma cavolo, qua ogni volta che qualcuno parlava prendevo colpi da tutte le parti. Se poi c'era gente al 23, io, cazzo, lo smitter tornava indietro. No, ma è un'altra cuba, diciamo, Daniele, quello è un altro pianeta, radio più selettiva, più completa, è un'altra cosa. Va bene, meno male che ha smesso di piovere, avanti Tino. Adesso vado a campo, c'è la vola sola che piaceva anche fare di furia nei tavoli, bevendo un goccino di birra ogni tanto. E dove? Lì al campo? Ehi, dove eri venuto tu la volta scorsa? No, beh, già c'è il chioschetto lì, solo il freddo. Cazzo, sono uscito a portare il cane per non uscire tardi. Sono uscito alle 7. Cazzo, c'è un freddo fuori da cagarsi. Vabbè, adesso inizia a scendere la iatta. Ma di cazzo, siamo 15 maggio, Io l'anno scorso al 15 maggio ero via Tuffendi, Considera che ha piovuto e c'è umidità. Ho già, guarda, ti ho mandato la foto, guardati il telefono. Dietro quella radio, cosa è? Dorata o argentata quella radio? Fammi capire. Dorata è, perché? No, quello volevo capire. Quelle sono quelle che si prestano meglio per le modifiche, no? 68 si è fatto bene quella radio, va bene. Come stavo dicendo, sai cosa c'è al telefono? No, dimmi. Allora, hai visto che c'è la micro sim, no? In questi digitali, c'è la micro sim, capito? Quella che si mette piccolina. Spaccata in due, non ho capito come. Lui non ha mai pigliato il telefono mio, mai. Spaccata e praticamente non arriva il segnale di internet. E allora? Allora me la stanno mettendo nuova, l'hanno ordinata, ma me la cambiano. E quello la metti, se la togli. Ma la scheda proprio la micro CD? Ah, quella micro CD. Ah, quindi diciamo che deve arrivare la scheda nuova adesso, 2 o 3 giorni, così. No, penso domani dopo, domani dopo domani, dai. Ho tolto la scheda e l'ho messa nell'altro telefono, posso ricevere, ma non c'ho internet, capito? Perché non ho altri di quei telefoni lì. Guarda, ragazzi, non vai a un telefono e va a WhatsApp, Non è un Massimiliano, ma io il telefono ho sempre odiato. Io sino a 2 anni fa io c'avevo il telefono senza internet. Non pensavo che mi piace a sé la tecnologia, ma poi ve l'ho preso e si abbiglia in luce, ma non me ne frega niente, capito? Qua sono Renato, è sempre arrumbato da una parte, non mi chiama nessuno, non so col telefono in mano, guardare foto, guardare quella, guardare quell'altro. 2 giorni di pacchia. Sì, ma non ti posso rompere le palle, lo già. Sì, basta telefonare, mi metteva tu oggi. Come è meglio sentire la tua voce? Dai, che bello. Avanti, Daniele. Dai, metto un po' il micchino in quella radio. Scappa, aspetta, Guarda, sono Massimiliano, ora è 3. Fai da 7 su questa radio, fai da 7 a 9 e 5. Cava, volendo si può aumentare. No, per me va bene così, tiro. Ah, a me fa da 9 a 9 e 10. Va bene. Cappanoglio, io spingo, maledetto. Vabbè, tieni conto che questo Smith non è come l'altro. E quindi quando ha già segnali un pochino alti tende a farne di meno di batturate. Positivo. Oh dai, io sto usando sempre la tua, bene, sta andando, sì. No, infatti, ma Massimiliano, infatti te lo volevo chiedere se era sempre lì. Ha cambiato dal giorno alla notte, da ieri a oggi. Adesso va bene, adesso lascia perdere che senza ecco si saluta. Due vatte di portata bianca, 18 modulati, 20, dipende come ci parli, 22. Oh, Daniele, prova a spostarti a vedere se mi senti, che ho cambiato, ho buttato il capo, prova a vedere. Vai qua, parla. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. La gallina canta, cocco, ma mi senti o non mi senti? Cambio. Un bambò, ecla, un bambò. Visto, 50 watt, cioè il piatto 50 watt. 20 watt modulati 40. quindi vedi bene che non ti ho detto bah, lei l'ho provata, ma selettiva, guarda, tra quella, anche il Typhoon 2 andava molto bene, anche il Superstar, tutti baracchini molto selettivi, veramente eccezionali. Cazzullava il 48 mio, se ne sta ridendo dentro l'armadio, c'è una modulazione con l'MB più 5 a che livelli, non lo posso usare perché cosa lo attacco a fare? Sento la caduta 923, non vi intendo. E qua sta arrivando la 925 abbondante, Nicla. Però se mi sposto, anche per dire due su, due giù è a posto, tranquillo. Con l'altro ti sentivo a 360 gradi. Sì, ma lo so, Daniele, non mi stai dicendo niente di nuovo. Lo so, è così. L'unico che lo può usare è il 48, che però, vabbè, lo alterna è Tino, che è lontano, è distante. Capito, ma io addirittura i camionisti scendendo da Campomela nel 5, io nel 10 mi splatterà a fare i camionisti, immagino già dei due, vabbè, pazienza, avanti doppio ru. Cioè tu fate un conto che io ho lo smitter a zero, ci deve essere gente negli altri canali, ok, io quando stavi parlando mi sono spostato nell'8, nell'9, abbattimento a manetta. Sì, Massimiliano, abbiamo già fatto queste prove, non c'è niente da fare. Baracchino bellissimo, eccezionale, ma da macchina, da camper, capito? Ma per fare QSO in città è una cosa allucinante, biliardanti di chi si golpi. Vedi, 68 un po' più selettivo, perché mentre stava parlando Daniele mi sono spostato, lo sento due o tre canali, però poi non lo sento più, non lo sento più, mentre il 48 lo sento su tutti i 40 canali. Almeno e poi senti il discorso chiaro chiaro. L'altro giorno non so chi c'era al 23 o a qualche canale, stava parlando non so chi, e sentivo il suo discorso chiaro chiaro qua più quello che stava parlando sul 10. Sì, lo so, ciao motopompa, avanti. E vabbè, io già ti sento 9:10, sì. Antonello vi saluta, per chi non lo sente col portatilino ricatto nel divano, cambio. Oh, io zero, non lo sento. Vabbè, ma lo siamo attaccati. C'è un operum, non ha risposto, Tino, riprendi. Io l'ho sentito basso, però non ho capito cosa ha detto. Vabbè. Stavo facendo l'amore con Condor. Tutti a capicolo per me, no? Stavi facendo l'amore con Condor. Contro, non Condor, il cazzo, con Condor no, lì non saranno. Ma salutare, che viene a girarmi le balle la mattina presto. Ah, ho capito. Va bene. Sì, Daniele, hai fatto una cosa grande. C'è un baracchino serio, ti puoi divertire, normale, è super, capito? Perché quello modifica, hai visto, non ne ha. C'è il suo tattino, c'è scritto ecco, originale, tiri su, entra in funzione il meccanismo turbo. Quando vuoi fare questo normale, lo tieni abbassato il tattino e lui esce veramente molto bene. Ciao ragazzi, hai fatto bene, dai, gira bene. È tutto a posto, va bene. Daniele. Ehi, Amassi. Ma vuoi un consiglio? Io ci scrivo venduto. Sabato mattina, una domenica mattina, te ne scendi qua con Claudio a casa, ti porti fuori strada, lo mettiamo nel fuori strada e te lo deneghi. Arrivi. Cazzo, Daniele. Intanto poi alla fine fai un sacrificio, ti prendi quello e poi non hai assolutamente problemi con chi stai facendo le cose, capito? E quello lì te lo tieni, te lo metti nel fuoristrada così com'è, quando sei in giro sei sempre attivo, l'antenna ce l'hai e c'è una bella radio. Sei in giro con fuoristrada, non ne hai gente vicino. Lo usiamo da combattimento allora, Massimiliano. Ma io ti do questo consiglio, se poi gli agganci magari se c'hai un aiutino, un 747, facciamo un bel impianto, vieni qua, io già ce ne ho attrezzatura. Facciamo bene stazionario, lo mettiamo in un punto buono e te lo tieni, secondo me. Io direi di scriverti già venduto. E allora facciamo così, Massimiliano, dai. Ma l'hai convinto, eh? Sì, ma 150 euro di. No, e allora? Lo sta regalando, perché nel senso che addirittura voleva 100 euro lui. Allora, ci sono già 40 euro solo di pomelli. Adesso la radio va bene, io la sto usando normale. Con 2 watt, c'ha 20 watt modulati. A voi va bene, poi c'è i canali, c'ha i 120 canali. Cioè, per mettere in macchina, voglio, è carino. Capito? Le metti un 747 e ti diverti. Quando sei in giro, almeno... Cioè, stai in compagnia, cosa, va? Lo so, io in macchina, vabbè, l'ho tolto da poco, perché sino a poco tempo fa ce l'avevo. L'ho tolto perché, vabbè, quando uscivo io in macchina non c'era nessuna frequenza, quindi tra una cosa e l'altra, poi rientravo e parlavo a casa, quindi proprio l'ho appeso, diciamo, in macchina, l'ho tolto. Ma ci vuole poco a collegare nuovamente il tutto. Io ce l'avevo lo stesso, anche nell'altra multipla che avevo, ce l'avevo l'antenna davanti, anche in questa l'ho messo, perché questa qui l'avevo messa dietro l'antenna. Allora, tu pensa che io quando andavo a lavoro alle 7 di Manzano, andavo ad Alghero, e anche in ritorno c'era Claudio che mi accompagnava per tutta la strada, da Sassari fino a dentro Alghero. Sì. No, io l'ho preso, avevo fatto la accoppiata così con il 747 e bugia mia, avevo un LEM 200, e stava bene uguale. Questo va bene, mi... cioè, però, allora, che c'è la radio? E guente di la via, anche il tornato, guente la prima, va. Cioè, io questa radio l'ho usata parecchio. E ti dico che questa è una bella radio. Non lo metto in dubbio. No, ti ripeto, il brutto di queste qua, usarle in stazione fissa è come stava dicendo Claudio, che piglia un bel goiti, però si lascia fare tutto. Vedi, macchina è di lusso. Se puoi una stazione sempre CB, veicolare, la stazione fissa ti prendi, come ho fatto io ultimamente, che ho preso questo brutto, continuo che prendi. Lo so, ce l'ho anch'io il brutto. C'è anche il tornado che non le prende colpi. Bello, anche il tornado. Io stavo cercando una di quelle. Non ho provato il Lincoln, vedi, se prende colpi, quello non lo so. Però a me, sinceramente, il Lincoln ha la radio che esteticamente non mi piace proprio per nulla. Il tornado io non ho il 34, però avevo il 34, l'ho dato via. Ho preso il 4500, che è un po' più migliore, là, che è un po' migliore. Cappa. Andare, no vabbè, a me piace invece. Sì, è allegro, però puoi fare tante cose, là, già è bellino anche quello. La moto grande, giri in 7 canali. Ti puoi giocare. Sai che non so, la possibilità di altre volte che però non vanno in questa radio, parlo sempre. Non vanno come vorrei andare, però magari aiutato. No, credo che vada bene, non lo so, non l'ho mai provato. KK. Oh Claudio, tu sei con il K, vero? Eia, non ne prende il colpo il presidente, non ti preoccupare, l'ho avuto per anni io e sembra un K, poi io ti ripeto, c'avevo le Meci 60 attaccato ed era uno spettacolo. Dimmi Massimiliano. E infatti. Oh Claudio, ti volevo chiedere una gentilezza. Allora, con 2 volte di portante, quanto ti arrivo? Mi devi dare il segnale giusto però, Ora, 2 watt di portante e 20 modulati, com'è? Allora, la portante bianca 6,9 e poi vai a 9 più 10. Ok, aspetta Ora, 9 watt di portante, ora, 26 modulati. Allora, con 9 watt di portante 6, 9, 10, portante bianca, modulati 9, 15. Buono, ok. Allora, la radio un pochettino diminuisce, vero? Guarda, te lo faccio in questo passaggio così. Allora, sto abbassando il watt e adesso la radio è diventata più forte, giusto? Massimiliano, ma è impercepibile, niente di che. Va bene. Ok, va bene. Vediamo Lupio Rum se c'è. Lupio! Io sono qua. Sono andato in bagno. Vabbè, ho visto Massimiliano, sono un muro che colpiti, però io non ho solo i colpiti, ho le mani fuori, ho praticamente le slitte, c'ho la stampa, tutto nuovo nuovo. Ti sto dicendo che quella apparatura è stata la fregatura, l'ho comprata di quelli tipo fatti, tipo Eco Colte, e mi è durata dalla casa a San Stefano, capito? Gliel'ho riferito e mi ha detto che non c'era nulla da fare, che era partito ma non era per causa loro. E cosa ti è rimasto? Anche la mascherina quella illuminata con tutti i pulsanti anche? No, quella lì l'ho data. Ah, ok, no. Va bene, no, era per farti vedere il prezzo, perché costano poco, mi hai visto, con 20 euro costano 14,90 più 5,90. Fai 21 euro, sono nuovi anche qui, quelli sono nuovi nuovi, sono gli originali dalla 48. K, va bene, no. Vabbè, io non è che abbia sentito di prendere, io li ho tenuti per il campo, c'ho anche tutte le vite, tutto quanto, tutte le vite originali, io ho smontato la roba che mi poteva servire, no. Beh, fatto bene, no, vabbè, ma la staffa magari già ce l'ha a coso, la staffa me la sta dando Claudio, che è nuova, le due slitte, quelle grandi ce le ho io. Capito? Era giusto per stare lì a verniciare le cose, magari gli avrei messo due coperchiette nuove, il frontalino me l'ha dato Tino, che è nuovo, capito? Adesso da questo 48, visto che ce l'ho qua, ne stacco questi pomelli qua trasparenti e ne metto su quelli originali, che ce li ho. Ascoltando stavo, eh. Ma non mi ha capito Gianni, no? E poi infatti. Ce li ho io, mi pomelli della 48 nuove ce li ho, quelli sono sicuro che ce li ho. E questi me li prendo, tanto questi sono trasparenti. Illuminati, però. Dovendo cambiare, dovendo rifarlo normale, c'è tutta la roba, capito? Lo posso rifare normale come nato. Allora, va bene, avanti, zio Cla. Ehi, mi sto ricordando, c'ho anche l'altro, vabbè. Ok, cosa stavo dicendo? Sì, ma vanno bene, no, il mio pomelli originale, tutto originale, però lo lascio così. Ma poi attenzione, mi un tempo, te ricordi, ma c'è un altro, perché non lo mandi a modificare? Ma qua non l'ho modificato, cazzo, se no lo potevo manco trattare, per carità, che... Vabbè. Avanti, Tino. Perché no? Perché non lo puoi modificare? Sì, altro se distruggo tutto il condominio. L'altro giorno stavamo giocando con Massimiliano nel 45, con quello Colte, cazzo. Tutto a posto, poi l'ho staccato, vabbè, sono passato con 4,40, io con questo oramai sono abituato. L'indomani è venuto l'amministratore, mi ha citofonato e mi ha detto: ieri sera stavi distruggendo il condominio. Io? E con che cosa? Siccome napoletano, ha detto: non mi frega, Ogla, sei 40 anni, non si è mai lamentato nessuno, si sentivano con questo boccione tutto con l'ecco, tutto, ha detto: mamma mia. No, non sono io, no, c'è qualcuno vicino. Capito, quindi no, io non ho mai rotto le palle, evidentemente quella disturba e sono radi modificate, allora no, ha giudizio. Ma Cilia, la sto mettendo dentro la busta, scendo a portata, infatti gli ho restituita, capito? Gli ho restituita. Io no, non ne uso, va bene così, no, non mi interessa. Quando andate a combattere nel 45 io vi ascolto e basta. Ti metto di M1000 se non posso levare anch'io, nel TV, e c'è sempre l'eco. No, già la per fare una camera eco. No, non volendo l'M300 e aggancio l'amplificatore, non c'è problema. No, non mi interessa, anzi, mi dia. Non mi interessa. Non lo sai, io poi ho cercato di rompermi le balle. Meglio niente, ci sono già passato in quella situazione, lasciamo le cose come stanno, due chiacchiere qua, normale, col mio 440, radio non omologata, non in concessione, amatoriale, capito? Appetti le orecchie, Claudio Spalviera usa il 440 e 27, da 40 anni. Io uso la bandiera di Bricomen. Pirata, pirata. cirurgiani tutti, capito? E non mi rompono le palle. Che ognuno fa sempre il dolce da lì. Abbiamo messo per il gatto giù e abbiamo fatto me. Ciao, io mi ti stavo chiamando. A me? Chi mi sta chiamando? No, non sta squillando il telefono. No. Ma Luca, Luca tu sei? Io, Fabio, sono un mistero, anche tu non è che sei molto alto, Luca. Ma non lo sento mai, non sono a casa. Ma sì, a Luca lo sentivo, con la 68 adesso non arriva col 440, com'è? Qui sta arrivando, Santiago 5. Ma te lo botto, no, che manco l'intengo, forse perché ho quella direttiva che è mezzo puntata in quella zona e quindi riuscivo a tirarlo fuori. Qua manco arriva con l'antenna verticale. Ma non è che è in FM? Oh, tutto strano arriva, cazzo. Ma tu lo senti bene, sì? No, assolutamente no. E manco io. È un po' strano quella radio. Prova a ricambiare quella direttiva verso l'ascolti. Guarda, vai, neanche arriva. Io ascolto Santiago 5, claro. Io non ho capito neanche chi è. Luca è. Luca? Sì, io me ne morte. Di Luca. Aspetta, mi state sovrandurando. Luca, tu sì. E io? Tanto io non da. Bobo, Santiago 8 arrivi con la direttiva, Luca. Anche tu qui, tu eri 3-6-8. Con la direttiva ti ascolto, Santiago 8. Fatti il conto, con 4.40 in verticale non ti ascolto per niente. Perché puntata lì, capito, in mezzo, vai. Sono conto benissimo. Arrivi praticamente una fettina, va. Arrivi bene, perché c'ho la direttiva puntata lì, 280 gradi e mezzo tra i punti e Sant'Orsola, quindi sicuramente ti prende. Cazzo, con la verticale non arriva, vai dalla differenza che c'è, mi. Allucinante, che. Boh, ma perché sto facendo così? Perché io? No, controllati qualcosa, Lu, perché qua arrivi 7-8, ma la radio è tutta strappata, non va bene. Vabbè, ho fatto aria, zio, cosa non attendo, non serve a niente, cioè, è però così piccolina, vai. Se non sono a casa. Lo so dove sei, Lu, però non è la tua modulazione, non si capisce un cacchio. Ho provato anche io a cercare un FM e non sono riuscito a capirlo, capito? Lui io sono sentito a 3 volte da lì, ma non ci sente bene. Adesso la data sta avanticata, sento proprio frequente, sempre piacere FM. Te lo provo per dire io già, però ho provato anche io a cercare un FM e non sono riuscito a capirlo uguale. Che radio stiamo usando, Lu? Una radio piccolina che stava dicendo. Io ti ho compreso, anche se è piccolina, va. Santiago 5 qua sta arrivando a me. Come radio era, però non era chiara, sembrava come se fosse avesse stazionale, capito? Un apparecchio modulato quando c'è stazionale che fa quel difetto, sembra che sia in FM. Allucinante, roba di guadagno, c'ha la direttiva. Addirittura tu ora sei con la direttiva, vero qua? Sì, però tu sei leggermente spostato verso destra, mentre lui è leggermente più sinistra, e sicuramente lo prendo un po' più in pieno, capito? Infatti no, siccome ho notato il segnale, fai 5-6, metto sicuramente di nuovo la direttiva. Comunque non mi avete detto niente, ho cambiato il radio, la modulazione la stessa. Più o meno sì, leggermente più alta e sicuramente regolato più alto. No, perché non lo sentivo, infatti Massimiliano mi ha detto prova a cambiare quella direttiva per se lo senti. Ho cambiato e lo sento, cazzo se lo sento. Da di là arrivava Santiago 1, qua mi arriva Santiago 8. Buonasera. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Tino ha attaccato il Lincoln, me l'ho sgamato di brutto. Cosa già? Che Tino ha attaccato il Lincoln, l'ho sentito di brutto. Già ne ha orecchio fine, vedi? Io ti ho detto che è più forte come modulazione, però a me fastidio, ma io sto usando il baracchino, ti sento bene, la mia colonnina è a posto, non sei distorto. No, aspetta che abbassiamo, aspetta, dai, così almeno. Guarda un pochino Gianni, vedi, parlo a te perché tu sei l'unico che magari mi distorce un pochino. No, vabbè, ormai più che come si dice, più che la saturazione è il suono. Questa radio c'ha un suono tutto suo, molto spugnoso rispetto alle altre. Lafayette è chiaro come il sole, l'acido che trattene il frutto lo stesso è limpido, questa è spugnosa la radio, e infatti ti sgamo subito. Certo, un bel termine, spugnoso, fammi capire cosa vuol dire, però è un bel termine. Allora, ti faccio, è come vedere un'immagine a fuoco, poi la stessa immagine la vedi sfocata, allora il suono risulta sfocato, ok? Ah, ecco, va bene, va bene. Hai orecchie pelose, ci ha capito, No, perde definizione, le altre sono molto più definite, questa radio ha una definizione più scarsa, capito? Ho capito. Dottore, con la coda dell'antenna quanto mi ricevi tu? 25, quando invece usi l'alta arrivi 30. Io sono con la coda praticamente, con la coda dell'antenna girata al contrario. Va bene, dai, facciamo a giro allora. Qua sei Santiago 5. Lo so, sono basso, però va bene, la radio c'è. Oh, grazie, vuoi ti passo la direttiva che ho io, quella del wifi, capito, le piazza un'altra, te la porto a casa tua, così almeno c'è il segnale gratis. Ah, no, vabbè, questo è tra le mete di 10 metri, no? Era giusto per provare questo baracchino. A me stai dicendo Gianni Brofetta, Santiago 5. Santiago 5 oscillante 3, 5 e 6. Sono in direttiva, sono a polarizzazione orizzontale, non a polarizzazione verticale. La radio com'è? Buona? Vabbè, si sente che a causa del segnale sei basso, quindi sì, la radio è come al tuo solito, anche se stai usando un apparecchio diverso. Non avevo dubbi, la modulazione è sempre quella, va bene, dai. Ok, no, era perché non sentivo a Luca, capito? Adesso passo nuovamente col K, dai. Oh, Massimiliano. Dimmi. Allora, oggi ho acceso il 48, ma quanto è sordo? Addirittura Claudio era Santiago 2. Datelo conto, boia. Io adesso invece mi stacco un secondo, provo a mettere le viti, sto temendo questo 48 a mettere le viti, è chiuso, però senza viti. Massimiliano, più corte possibili, più corte possibili. No, dopo dimentichi che pongo le viti non funziona più, mi aspetta, lo faccio da acceso per quello. Fatto sì, ma poi c'ha le coperchi sopra, però le viti metti lì a radio spenta. Tanto mammato sì. Va bene, dai. Allora riprendi a chi tocca, Gianni doppio rum, riprendi. Gianni si sta vestendo. Daniele, riprendi tu, dai. Ehi, acqua, stavo ridendo per Massimiliano, poi mettere le viti. È pericoloso, se metti le viti a radio accesa, certo magari tocchi qualche cosa e bruci la radio, capito? Antone, minchia, certo, ma tutti cadete a testa a terra, capito? Avanti, ti riprendi, va. Lui l'altro, Sono tutti a capo a terra, ragazzi, riga. Allucinante, ragazzi. Vabbè. No, stavo dicendo, da quanto è sordo, 48 più io, che forse va bene mezzo in città, perché ma non per dare segnale. Ti ascoltavo con un segnale di due a te. Figurati. Vabbè, ti però, ripeto, già lo sai come funziona, no? Io sono a polarizzazione orizzontale, quindi il segnale perde. Però se è puntata bene, hai visto, a Luca da Santiago 1 l'ho portato a Santiago 8, quindi se è puntata bene già ti sento bene, evidentemente non è proprio nella tua zona, adesso non mi ricordo, mi pare sia verso i punti, verso Porto Torres, quella zona lì tu sei un po' spostato più a destra, capito? Va bene, ma... Sì, era giusto per provare questa radio per non staccare l'antenna dal 440, perché ho tolto il commutatore, T230 l'ho passato in HF di nuovo come deve rimanere e quindi non ho commutatore d'antenna, ce l'ho ma non lo metto per provare i baracchini, se abbia le luci. Già va bene, vabbè, no, io, ma cos'ha il rotore piccolino, la 400, quant'è? No, io ho due sistemi, uno grande e uno piccolo. In quello grande che ha montato Fabrizio, lì c'è il G450 della Iaesu, mentre nell'altro c'era un 200 della Sirtel. E praticamente l'ultimo metrale che ha fatto l'ha sgranato, rotto l'ingranaggio, ho capito. Allora, siccome il rotore è vecchio che non me ne frega niente, ho tolto tutto e ho messo la direttiva a tre elementi a 280 gradi e sopra c'è la monobanda 16 elementi per le VHF, sempre per la banda laterale, però non a polarizzazione verticale, sempre in orizzontale, capito? E le ho messe tutte e due verso l'asinara. Sono fisse quelle, le lascio fisse così, tanto non me ne frega niente. Ah, capito. Ma perché io l'avevo preso uno, ce l'ho anche, il G400. A me il sistema grande mi interessa, quello piccolo ce l'avevo per quando magari c'era propagazione in 10 metri, allora usavo la monobanda, ma i 10 metri ce l'ho anche nel sistema grande, 10, 15, 20, capito? Nella 3 elementi uguale a quella che c'ha l'altro, capito? Però non mi interessa. Questa era giusto, c'era il cavo così, invece che attacco quella lì, ho commutato con la Meritron che sto usando quella lì. Guarda, ma è bene Giulia, perché sul tetto ho anche altri elementi, ma non ne ho voglia né di piazzare, né di mettere traliccio, né di mettere sempre, non traliccio la cosa però, non quello classico, lato 40x40, traliccio tipo 10x10 o anche di più, col carrello, capito? Sì, già me l'hai fatto vedere, è quello che c'è giù in campagna, dall'altra parte. Beh, quello non è piatto, è troppo impegnativo, troppe cose, non me ne frega niente. Stavo pensando di mettere una cosa meno impegnativa, ma giusto così, per divertimento, quando non sai cosa fare, capito? E mettere un quadrato 10x10, salirlo, penso, 6 metri col carrello all'interno e giocarti così. Ti fai fare lo stesso sistema che c'ho io, Fabrizio. Io non ne ho traliccio, no. Io ce l'ho a cosa al muro, già l'hai visto, no? Quello l'ha fatto lui, costruito lui. C'è il portarotore, fai una cosa così telescopica, giusto per divertirti, già funziona lo stesso, già va bene. Io poi, vabbè, nel mio sistema non potevo mettere traliccio, ecco perché io non ne ho mai montato. Poi quando Fabrizio ha tolto il suo, mi ha detto guarda che il sistema che io per te va bene perché è da parete. E così ho fatto, ho comprato tutto da lui, già tutto pronto, ha tolto solo le antenne e a me mi ha dato tutto il sistema pronto, capito? Sì, già va bene, va bene. Vediamo, se non è bene Puglia, se no già rimane così com'è. Lascio solo quella per la 27 e basta. OIT, rimani di Gabbiano, io non vedo l'ora che arrivi il bel tempo per abbassare tutto e basta. Lascio il sistemino piccolo e col dipolo, basta. Senza rotore, senza niente, è troppo alto, troppo alto, troppo vento, succede troppo l'anno, è già la terza volta che, non che mi sgrana il rotore, vabbè quello grande no, però che mi gira le punte dei radiali, della tre elementi, quello è già successo tre volte. Gli ho stretti, mi è venuto Massimiliano, si è appeso, gli ho stretti di nuovo, l'ultimo metrale che ha fatto lo stesso me li ha girati al contrario. Quindi appena arriva a tempo bello, abbascio tutto, rivolgo tutto, lascio le direttive piccole, molto probabilmente lascerò anche quella dei 6 metri, che è più piccola, ma quella grande la tolgo, rotore quella grande la tolgo, lavoro col dipolo, ho 10, 15, 20 e 40. Mi mancano gli 80 e i 6 metri, basta. Dove posso lavorare? Lavoro, dove non posso lavorare c'è la biglia in culo, io devo dormire la notte. Vabbè, dai. Giusto per divertimento, non deve essere un lavoro. Io ho capito, ma per me non è divertimento, per me se devi fare le cose devi fare bene. Io c'ho tutto in regola, tutto a posto, tutto in ordine, però ogni volta che c'è il vento è un disastro, è un disastro. Sta i chivi, fischiano come dannati, ci sono quelle due vecchiette dell'ultimo piano che sono sempre a disimpero, fermo, finire, leccati le balle invece leccarmi le dita. Cazzo, esci dalle balle, togliti. Gesù, grazie, qui sotto, come sono i ciabatte che mi leccano le dita? Ah, voglio sì, un leccatore. Un cane lecca. Un cane di vietro, vai, la carità, mai più o meno. Va bene, allora avanti a chi tocca. Gianni Rubrofetta, riprendi e fai girare, cambio passo. Cappa, sì, avevo una telefonata in corso, non so se mi avete cercato, ma avevo una telefonata in corso. Comunque, scusate se non ho salutato gli altri, buonasera a tutta la ciurmaglia. Daniele, Doppio Room, Massimiliano e tutta la compagnia cantante. Chiedo venia. Ciao Gianni, ben sentito, dai. Adesso questa radio sei 9.25. 9.25, vabbè, io sono passato avanti col capo, intanto Luca non c'è più. Va bene così, dai. Io, se mi date il permesso, un secondo, cambio radio. Ah, questa l'ho chiusa, mi dai, ho messo quattro viti senza le slitte, senza nulla, te la chiudo così e poi... Va bene, là, ok, cambio radio, là. Comunque fino adesso era già un paio d'ore attaccato e sta andando bene. Ok? Capa Massimiliano, va bene, va bene. Ma le dritte le devi mettere, ci devi mettere la staffa qui per la macchina. Ma quelle lì era accorcio però, capito? Quando facciamo il lavoro gliele accorcio col seghetto e gliele facciamo piccolina. Grazie, meraviglio di Albino, Minchia, è molto pericoloso e bruci tutto. E infatti, non funzionava più nulla. Io non sto lì a criticare, ma fa molto orecchio, vero? Cosa? Ho detto, non sto molto a criticare, ma quella persona che ti ha fatto la radio fa molto orecchio. Beh, se non hai strumenti, per forza. L'eco glielo ho regolato io, Ah, ecco. Ma no, io non lo conosco, però... Anni fa abbiamo fatto portare una radio per me e l'ha fatta. No, già lo fa, però lui è tutto a orecchio, come dici tu, però già ti sei risolto il casino problemi. Ma l'eco, una volta che tu c'hai l'orecchio a questo tipo di radio, già riesci a farlo anche tu, capito? Cioè bisogna sapere mettere le mani, là. Oh raga, mi allontano un attimo io. Sì, dai, io cambio radio invece, dai, riprendete voi. Caparrogero qua, ok Massimiliano, va bene, già siamo qua. Senti Tiaiso come gira più bello corposo. Io te lo appoggio. Allora lo lasciamo così, Daniele, cambio. Va bene adesso, prima era troppo dispersivo, capito? Facciamo così, fregatene. Ti riesce bene, intanto un po' te lo sai, ce lo sai anche tu. In macchina va bene, te lo piazzi in macchina e c'ha ragione Massimiliano. Perché l'allo c'è 50 euro quando l'hai pagato di più. A un certo punto, c'è 50 euro, scusa, ti pigliano un 3009, un 887, quello che è. C'hai gli stessi watt e poi basta questa cosa, non è che ci sia questa grande differenza. Non ci siamo, ecco, ti prendi un DM1000 e ce l'abbigli in culo. Positivo, dai, vedi un po', Danilo, cambio. Va bene Massimiliano, va bene, adesso sì, come tutti, diciamo, la maggior parte delle radio che si sentono, quella era tutta a conto suo. Positivo, dai, non lo fai, che dici, la lasciamo così? Lasciala così, bulldozer, lasciala così, cambio! Capo, passo! Cambio! Senti questa, Gianni! Qui che non siamo su 45! Hai fatto sordo! Dice il cocco, arriva già, sto cambiando radio! Se la metto qui con la radio lì mi picchiano di nuovo e la tira nel condominio, te lo dico io! E fa poco di TV, quel cavo con il radio! Quello vabbè, se la metti in macchina e basta! Ma in casa è impossibile installare una cosa del genere. Capito? Vanno tutti fuori frequenza, vanno. È talmente alta di audio che c'è l'ampiezza di banda che è una cosa allucinante. È come se io, per dire, attacco in questo baracchino qui l'uscita audio di un CD. Non sai come ti splattero i 5 canali sopra, 5 canali sotto. Altro che dopo il modulatore. No, per fortuna ancora non ce l'ha mai dato nessuno del TVI. Ma stavo tu dicendo, è sempre stato così quel tipo di radio. Claudio, quando usava quella radio lì, la prima che ha avuto, lì era una cosa allucinante, lo sentivamo quattro canali sopra, quattro canali sopra. Era una cosa, cioè non puoi attaccare una cosa del genere, cioè quello va bene in macchina, in camion, quello che è, non disturbi nessuno. Per dire, ma in casa è una cosa allucinante, secondo l'amplificatore ci ha agganciato, senti dentro e l'uomo in attesa si è fottuto, sì. Oh, lei ci tuffoli. Che io sapevo di quelli già, c'era qualcosa mio fratello quando parlava Baracchino 80 anni fa, che allora esisteva lo stereo Arama 2000, usavo il bivuccio 31 con l'apparecchio, il President R7, 100 watt in uscita, non riuscivo a sentire manco un disco. Cazzo allucinante. Poi la stai innescando. Aspetta, mi risposto. Che mi risposta appena, cambio. Per quando ti compri un S9, scusa, almeno sei a posto. S9 è l'unico apparecchio che c'ha l'eco, c'ha tutto quello che vuoi, esce 25 watt, non disturba la televisione, è a posto. L'ho usato io, è una cosa bella, bella, bella veramente. Costa un po' di più di quello lì, però è una cosa abbordabile, capito? È la salone a casa. Sì, vabbè, intanto questo solo se vado al 45 a fare due giri così, se no lo tengo normale in casa. Ehi, vedete quell'apparecchio, quello che c'è di fronte della palestra, vi ridete che tutti bussano la porta, te lo dico io. Sì, è quello che voglio. Ehi, te l'ho detto io il lineare, te l'ho detto un'altra volta, ti do me, il lineare lo faccio io. Vuoi volare, installi quello, quell'apparato lì, stai tranquillo che sotto mezz'ora non senti più la musica, senti solamente la voce tua di coso, è come se avessi il preascolto. Così possiamo regolare bene l'eco, appunto per quello, ma non lo vuoi, lo dici, te lo dommi, quel lineare, te lo presto. Tanto io non lo sto usando, ce lo fermo qui, a un certo punto lo usi tu e a valvole 150 watt tondi tondi tira fuori, lo metti a 15 watt, a voglia che pompa. Cazzo, se mi pisci a vita a quella, ragazzi, i carabinieri mi chiama. Fatelo da subito. Però sto dicendo, va, quando lo vuoi lo sai, vieni qua te lo prendi. Però no, lo utilizzi, intanto non lo sto utilizzando io. Tu usi tu, quel lineare un po', almeno si diverte. E poi, Antonè, cazzo mi rompe i coglioni quella, cazzo, già la conosci quanto è acida. Vabbè, tu a forti dimmi, tu fatti la lei, usa quell'apparecchio che sta usando adesso Massimiliano, metti quello con il lineare, stai tranquillo che non senti più la musica, senti la voce tua, ti metti a fare il pappa, hai capito? Questa è Radio Maria, Grigi. Hai capito? Almeno io spegni tutto, te lo dico io. Non usa più musica, manetta. Non è così che quella radio è centrata. Non è armonica, è fuori posto quella. Quando schiacci che togli l'eco e togli la cosa, è tutta bella centrata. Sì, ma non hai capito, Massimiliano, lui ha problemi anche normale. Il discorso è quello, c'è l'attaccato. Anche quando lui schiaccia le baracchine normale, siccome c'era attaccato a casa, proprio ma di fronte, con la palestra, e c'erano gli amplificatori non sono schermati, e quindi c'entra dentro con gli altri, capito? Ah, e allora i problemi sono risolti però. Sì, stai tranquillo, siccome dice che c'hanno l'abitudine di mettere lo stereo a manetta, 200 watt di la letto, in pratica lui non riesce a dormire, ma rosso. E quindi a un certo punto si vendica. Quando quello mette lo stereo a manetta, lui prende il bodyboardante, così almeno sparisce l'audio. Vedrà che cambiano tutto, cambieranno l'amplificatore, cambieranno il mixer, cambieranno l'impianto stereo, quello che è, intanto sono sicuro che quelli sono di quelli stereo fatti a blocchi che si prendevano una volta, capito? E non sono schermati. Antonè, ma ti volevo chiedere, ma quell'altro 48 là, provato a cambiare quelle resistenze o la roba là? No, non mi ha dato il tempo, mi ha telefonato Claudio, mi ha detto dice dammi tutto che devo andare a Massimiliano, ho detto vabbè, se tu ti ricordi bene mi ha chiesto il giorno prima, dice fammi la modifica, fammi quello, fammi quell'altro, e poi mi ha telefonato Claudio, ho detto vabbè, ti lascio tutto così com'è, ho pazienza. Poi un domani, se decide Massimiliano, se busco quella roba lì, si fa, non è un problema per quello. No, ma io infatti ho detto che ho detto se doveva controllare, che dovevi controllare anche quello lì, boh, vabbè, comunque. Infatti mi ha detto tu che dovevi, forse avevi quei quarti per fare i canali e quel potenziometro per fare i watt irregolabili. Perché stai fischiando adesso? Lo già. Che sei tu scendi? Sto fischiando? Papi, adesso no. Forse mi sono avvicinato troppo alla radio. Ah, per quello, ok. E infatti abbiamo parlato il giorno prima per quello, poi mi ha telefonato Claudio, verso le 8, mi sembra 8 e mezzo, una cosa, e mi dice, un attimo, dice, mettimi tutto in busta, che devo portare la roba a Massimiliano. Mi ha detto, va bene, gli ho detto, allora, non si è fatto niente, ho detto, pazienza. Perché io stavo aspettando di buscarmi i quarzi, capito? Da qualcuno. E quindi vabbè, si fa un secondo momento, non è problema per quello. Tanto l'apparecchio ce l'hai lì, qui non succede nulla. No, infatti io di quello fretta non ne avevo, capito? Infatti a cavolo ho detto, guarda che io l'ho già sentita in radio, quella radio, che la stava provando Alice, ma mi ha detto che doveva metterci quel potenziometro per fare i watt regolabili e se trovava metteva i quarzi per fare i canali. Vabbè, comunque, cercali tu quei quarzi o... già te la risalgo, non è un problema, capito? E anche quello là però volevo vedere un po' se riuscivamo a metterlo a posto, è un peccato, hai visto quanto è nuovo? L'ho visto, mi è capitato un altro te, non posso uscire uguale a quello. In pratica il display non funzionava, se mi avrebbe lasciato Torino ti avrei fatto il cambio di display, ti avrei fatto. E sei stato tranquillo. Da due ne avete fatto uno, hai capito? Invece gli ho tornato perché non era manco mio. E Torino, io pensi non le odio questa cosa qua. Ondiami, sì, te li ordino, è passata una settimana, a un certo punto è trascorso. Digli, io ho detto scusami, è tutto lì, la migliore ce l'hai tu in mano, quindi a un certo punto cosa faccio? Io copro i pezzi e poi passano in cavalleria, me li passi tu perché l'apparecchio in garanzia, non lo voglio, detto. Quindi a un certo punto ho detto io grazie se non te ne faccio. Ma dice allora gli ho detto, ma gli ho detto lì così come gli ho detto, scusami, almeno quello funzionava, trasmetteva, riceveva. L'unico problema era solamente la questione del display e basta. Ma io di questo mio, io per un po' l'ho usato, capito, però poi un giorno, non mi ricordo perché l'avevo aperto, forse per vederlo dentro, e avevo messo una mano sopra, avevo visto che c'era una resistenza grossa vicino al display che era bruciente, e poi a un certo punto si è andato tutto in affanculo, si è tutto acceso il display, buh. Sì, due resistenze, una attaccata all'altra. E non siano quelle lì e basta. Senz'altro sono quelle, lo sto dicendo io. E allora quello lì glielo dica a Claudio di avvicinarlo, tanto a tempo perso te lo puoi controllare capito? Le dai uno sguardo così a tempo perso, la luce è venuta, te lo lasci aperto. Magari solo quelle due resistenze sono. Senz'altro sono quelle due resistenze lì perché scattano, hai capito? Quindi più tensioneranno al display più. Poi in pratica pilotano tutto, il PLL, tutto quello che c'è pilotano, capito lì, per il display. Ha già capito, dai. Sì, vabbè, là, poi già lo sento io a Claudio, glielo dico. Avanti, Rubrofes. Eia. Massimiliano, cosa stai usando? La radio di Daniele o la tua? No, adesso sto usando la mia, perché? Perché c'è l'eco inserito. E bastava dirlo la prima, no? KK. Ma Tino e Doppio Rumo che fine hanno fatto? E cosa ne so io? Boh, non sono più entrati. Tino, ci sì. Tino è andato a mangiare. Gianni sarà un po' duduttu. Vai. Mi ha detto Claudio, mi allontano un attimino, ma non è più rientrato. Claudio? C'è papà. Chi c'è? Ma stai pulendo il cane? Vabbè, là, riprendi da lì, non ho già compreso tutto. Kappa. va bene, quando ha finito già rientra Claudio, dai. Andò bene, Veda. Poi vuoi dire una cosa, mi sono prima intrigato. Va bene. Adesso infatti come ce li hai tu quella radio, invece? Sempre ore 9. Chiudili un altro pelino. Aspetta, guarda un po' adesso, ora, ora la cipolla. E c'ha più picchi di modulazione. Un watt. Ma che cazzo è un watt? Che c'ha come te che c'è un rosmetro? Cazzo, senti, ti segnava il tuo rosmetro, cazzo, che da... Da 2 watt, mi sembra, 3 watt e saliva a 5. E invece quando l'ho provato qui, da 2 andava a 18 o 20. Non lo so, sto quando mi dice questo. Ma sicuramente, se mi dice che sta picchiando bene. Hai già visto il video? Capito, quindi non è che... Finalmente sta segnando giusto qualcosa. Sicuro no, Massimiliano, perché adesso è un pelino sotto l'ora 9. Ma lasciala così, la radio è diventata un po' più forte, no? Così è Gianni, non lo fai, che tu sei più vicino, come l'ascolti? Già va bene, c'è un principe di innesco. Sei lì lì per innescare, Daniele. Quello è come mi sposto io, dai. Guarda, adesso non sta appena innescando, già lo sento. Daniele, provate a metterti un paio di cuffie ad ascoltarti. No, Massimiliano, non ho avuto tempo, la verità si ricca, non l'ho fatto. Anche nel telefonino vanno bene, che ti devi buscare uno spinotto mono, se no senti solo un orecchio. Cappa. Già mi ascolto, dai. Vado a cercare un paio di cuffiette. Oh, scusate che ero al telefono, quindi non ho potuto seguire il discorso, Tanto qui ce ne siamo tutti in pigiama, capito? Allora, pisciamo se andiamo a cuccarsi, ti. Ah, vabbè. Gianni, tu cosa dici? vai col mantra, puntella tutto. Vai, Pomponi, riprendi. Pomponi sicuramente sta bevendo la birretta. No, stavo chiacchierando così del più del meno, là, niente di particolare. No, dico il 48 mio, là, che... Stavo parlando, quel 48 che le cambiano queste resistenze a vedere se si riprende. Che nel cazzo è nuova, nuova. Guarda la foto che ti ho mandato, vedi? Cioè, quando lo accendi, in poche parole, si illumina tutto il display, tutto, capito, siccome è digitale, e se ne va tutto per i fatti suoi. Sì, è bello però, vai, no, fatto bene. È carino, c'ha, mi pare, 400 canali. Andale, oioia. Cappa Rogero, positivo, dai. E bene, Daniele. Cappa, no, stavo pensando a quello che mi ha detto Antonello di quella storia lì. Di quale storia? Ah, di quella tipa? Di attaccare il gingillo. Ci vai, prenditelo, cosa di là fu, ti attacca e via. Sali, tu prendi anche adesso, mi sei vuoi. Se c'è uno spezzone, glielo piazzi, sei a posto. Lo sai, non sei, Antonè. Io ho il 213 agganciato all'RG58. Cosa li cambia? Non li cambia nulla, no? Non mi fa proprio niente. Sono 100 watt, 120 watt, perché è stato Luca, ha detto che è tutto gonfio. Avanti, Luca. Già ci siamo, non ti preoccupare, già siamo qua. Muoviti però. Cazzo, lo sento a Luca. Io sì. Santiago 5, ma c'è la radio tutta... Sembra che sia l'FM, là. Già la capisco quello che dice, però è tutta un po' fuori, forse. Stavo bianco, sai cosa mi hanno chiamato? Cappa già. Così è ti. Ma io te lo sento, basso, vai, no, te lo sento. No, magari perché lo sento basso, questo, però non è come solitamente deve essere. Ehi, ciao dopo Luca, avanti te. Va bene, hai capito. Vabbè, io la tua mia poi. E io la mia lo stesso, il sugar è altro gioco bucia gli occhi. Ci vediamo qui che c'è alle 8:30 c'è la finale di Coppa Italia, se ti interessa, Atalanta Lazio. Eia, Cappa Rogero. Stavo dicendo, Cra, quell'altro 48 che avevamo lasciato lì a Pomponio, quello glielo posso. posso lasciare lì, perché mi devo cambiare due resistenze adesso, andava bene. Ma Tomei, spiegaglielo tu quando l'hai acceso, che è successo in quella radio. Sì, ma lui mi aveva già parlato, capito? Ma mi ha detto che è copiato, curiosamente dica, è dentro la busta, è tutto dentro la busta, Massimiliano, il 68 e il 48. Aspetta, allora, il 68 è a posto, e lì ci siamo. Poi l'altro, quello nero, quello nuovo, che dice il display che si illumina tutto, quello in pratica volevo cambiare le resistenze, provare a avere cambiato le resistenze, se si riprendeva, hai capito, il display tutto lì. E basta. Infatti ti sto dicendo di riportarmelo indietro, così provo a cambiare quelle due resistenze grosse che ci sono vicino al display. Se il display si rimette a posto e la parecchio va, è bene, se no l'ultimo è già per pezzi, altro non posso va. Un tentativo si può anche fare. Sì, tanto per cambiare la resistenza è una minchiata, capito? Ocla. Quello tanto, per lasciarlo qui, portarmelo qui e mettermelo nell'armadio, si può provare a cambiare queste due resistenze, se va buono, se no si controlla quel finale, quel prefinale, se è buono si toglie e il resto me lo tengo come pezzi di ricambio, una colonnina, una cosa mi può servire, capito? È tutto lì, è qua. Via, non c'è problema, ti consegno solo 68, con la staffa, quella roba lì e quell'altra lo tengo in macchina e lo vedo Antonello e vede lui cosa deve fare, non c'è problema. Poi vediamo, se va bisogna cambiarli, diciamo, il coso del microfono, perché quello è a 6 punte. C'è già agganciato, gli ho dato con quello. Cosa? Gli ho dato lo spinotto agganciato, femmina. Già agganciato, qui non ho pagato, mi sono dato il cavo e basta. Ehi, va bene, va bene. Va bene, dai, quello lì magari già te lo avvicina, Claudio, vedi, siete vicini. Te lo avvicina e vedi un po'... Oh Antonio, se si può fare qualcosa buono, se no lo teniamo a pezzi di cambio. Sì, vabbè, già vediamo un pochettino. Già ne ho pezzi di cambio qua. Ne ho baracchi. Capa brioche, allora, poi se trovi i quarti per quel 68 le facciamo quel lavoretto dei canali e del potenziometro, capito? Vabbè dai, me lo tengo in macchina e poi glielo faccio io, Antonio, non ti preoccupare. Io vi saluto, che è pronta la cena, e se coincide a più tardi, altrimenti per tutti, a domani. Un saluto circolare, ciao ciao. Ciao Cla, ci sentiamo, fatti sentire quando c'hai motozappami, capito? Ok? Ci sentiamo, ciao, buona cena, buona partita, buon tutto. Avanti, Tino. Ehi, ciao Cla, ciao. Ci si riascolta alle prossimine, miau miau, avanti Gianni. Ehi, ciao Cla, buona cena e buone cose, dai. Volevo proporre una cosa a Tino, ma gliela propongo un altro momento, dai. No, dimmi, se cosa da mangiare va bene anche adesso. No, volevo fare una sorta di gioco a primi. Dai, ci sto, io ti ascolto. Io ho già capito. No, per vedere se... Chiaramente stiamo parlando di giocare pulito, di essere precisi, regolari. No, vabbè, è una cazzata. Ti volevo proporre un gioco acquisto, cioè nel senso che tu attacchi tre radio diverse e volevo provare a sgamare tutte e tre. Non c'è problema. Pensavo che volevi chiedere se c'aveva un tubo. Perché un tubo? Ce l'ho, Vi, ho già. No, non è questione di tubo, no, vabbè, non è da fare adesso, ti comunque. Un altro momento, dai, adesso no, se no monopolizziamo la discussione, non va bene. Ecco, prima si registra la modulazione, hai capito? Poi si ascolta la modulazione e azzecca. Poi, no, così non va bene. No, già che già c'ha le orecchie pelose, Gianni, già è bravo su queste cose. Va bene, dai, ma io provo, vai con la prima, veloce. No, non adesso, ti, appunti e dini, un altro momento, dai. Guarda che l'unica persona che riconosceva tutti, sai che era Paolo Falcone, non c'è nessuno che lo batteva, guarda. Cazzo, allora, Pompo, mi stai tentando a fare quell'esperimento, Puliti che culto, me. Ti hanno solo in cena, io muoviti e appigliate quel lineare, ti ho detto. Mettiti in macchina, io ti sto scendendo il lineare giù e così ti metti lo spezzone e dici guardato quello che c'hai, che sei a posto. La quanto è ancora? Il Brimi è quello da 150 watt, monta le valvole americane, quindi non è che monta le 519, no, quelle americane, cioè originali. Aspetta, non ti ho sentito. Cos'è? Ho letto il coso, il lineare, quello che ho io. Faccio le base, hai capito? Le monta le valvole americane. E adesso te lo sai tu, lo spiri CTM. Ma ah, ho capito, andare. Quello è 6DK6 mi sembra, vero? No, non sono le 6DK6, sono quelle americane che c'ho le originali. Non c'ho le altre. Queste sono proprio americane originali, so. Quella mia c'era quella imbecille del coso, che non me l'ha voluto mai dare. Nuovo era, del Cotovo. Tanto adesso muore anche lui, quindi quando muore il nipote già mi dà tutto. Stai aspettando che muoia la gente. Vabbè, mi devo allontanare, dai, che devo tagliare due fettine, sono già più tardi. Va bene, ciao Tino, vai a fretta, vai, non c'è problema. Avanti Gianni. Ehi, sento Eugenio cantare sotto. Asco, quanto è? Lasciami 10 minuti e sto salendo, aiuto. Ok, va bene, io comincio a preparartelo, perché vuole imbustarlo, perché le valvole lo sai che tra caldo e freddo vogliono coperte, quindi adesso tu lo imbusto lineare e te lo metto dentro una busta e sei a posto. Caparroggio, là, ti faccio uno squillo quando sono sotto. Fallo scaldare bene prima di accendere, la mettere in funzione, accordati bene, ti allusiai, se no questo fare puff. No, non funziona così, da quanto tempo è fermo quel lineare? Ma una settimana già lo sai, a parte i condensatori sono nuovi, li ho messi io, sono a metà dei codici originali, li ho cambiati io, è a posto il lineare, non c'è problema, non scoppia. Ma tu lo sai meglio di me, non ti devo insegnare niente, però il lineare a valvola se sta molto fermo, da niente, lo accendi, lo lasci in stand by una decina di minuti, ok? E poi vai con bassa potenza, piano piano, in modo che la rudica della valvola inizi a prendere nuovamente quota. Non lo accendere subito, andare in trasmissione, perché puoi fare danno, capito? Solo quello ti volevo dire. Ehi, già lo so, Clark, l'ho avuto io un valvolare anni fa, che poi avevo dato. Scappa, va bene, dai, se ne aspettate, sto andando, la mazza e torno. No, io aspetto tutto, c'è un baracchino acceso e tra un po' franceno e poi mi guardo la partita, dai, al limite vi ascolto, ok? A dopo, ciao. Aspetta, c'è Eugenio, un'ora che attende. Anche io ne faccio altri due passaggini e poi chiudo, va. Avanti Luigi! Ciao Luigi! Ti sentivo cantando sotto. Non hai visto Pingi Pongo? Perché ti sentivano basso sicuramente. Va bene, dai, ok. Oh, anche io, dai, io mi stacco. Ciao Daniele, Pomponio, Gianni Rubofetta, Claudio, Tiro, tutti quelli che sono in ascolto, dai, mi stacco anche io. Ci sentiamo le prossime, ciao, a dopo se coincide. Ciao, a dopo. Ciao Massimiliano, Eugenio ti sente mezzo al QRM, non riesco a capirti, vabbè dai, se attacchi a casa ci sentiamo dopo, ok? Cosa è, dai? Calma Gianni. Aspetta un attimo che c'è un messaggio al telefono. Ah, c'è al telefono, vabbè, non è un problema. Ciu qui. Chi è là? C'è rimasto qualcuno? Dimmi. Ah, ok. Vediamo se Eugenio rientra e dice che stava tornando a casa. Vieni, vieni, là. Sono andato male a quest'ora ancora. Ah, boh, magari, ma niente. Oggi c'è freddo. Magari non è neanche uscito per dolori. Sono dolori anch'io, ma le ginocchia, mamma mia. Poi le proprie ginocchia, i reni. Vicenia Carronia, che ci rimando un messaggio a Marco. Manda un messaggio, magari è in giro a Pomati, cosa ne sai tu? Tu ce l'hai i dolori, Pomponio. Sì, no, puzzinoso, orecchie pelose, guarda. Il grande fratello ci ascolta. Sì, quello sempre, buonasera a tutti. Sì, hai azzeccato, stavo mangiando, o meglio, mangiando un dolce, dai. Comunque fra poco devo uscire, quindi no, non sarà molto. Vabbè, com'è? In due, tutto a posto. In due siamo. Sì, qua era acceso, ma come sempre. Venga. No, Tony, non ne ho dolori, assolutamente, però è spossatezza, eccetera, no. E niente di che, dai. No, già sono uscito, ho fatto commissioni, sempre conto terzi, mai roba per me, eccetera. E poi più tardi, quando rientro, mi guardo un po' di TV. Ma stasera mi sono dovuto non ho avevo niente. Poi mi sono messo a fare una riparazione, dopodiché sì, mi è venuto in mente bermi un po' di aranciata di quella di uno spino. Cazzo, ho cominciato a sudare freddo, a sentirmi una pressione strana. Sono andato allo spin, guarda quanto ci sono arrivato. Quando sono salito poi mi sono bevuto una birra e piano piano mi ha calmato. Mi stavo sentendo proprio male, come tutto, non so, scombussolato, una roba del genere. Evidentemente quel tipo di lancetta che c'hanno, c'è qualcosa che non va, non è possibile. Anche l'acqua verde mi fa la stessa indica cosa, quella gasata. Tale vuole, mal di reni e mi fa sentire male. Antone, tu troppe volte hai detto che bevendo o mangiando cose comunissime, banali, poi ti sentivi male. Io avrei fatto qualche controllo, boh, non è che hai celiachia, roba del genere, no? No, ma è stato tranquillo da pranzo, figurati, no, è stato tranquillo, sono sceso di tua Giampiero, figurati. Quando sono risalito, ho parlato tranquillo, poi mi sono guardato per la televisione, dopodiché sono messo a fare un mix, che stavo facendo un mix a sistemarlo. Poi ho bevuto un po' di aranciata, di quella aranciata che vendono alle USPI. Ho bevuto quella e mi sono sentito male. E così mi fa anche quella cosa, con l'acqua frizzante e con la verde. Non si capisce cosa diavolo ci sia, cazzo, che mi faccia male. Ho voluto bere una bottiglia di birra per potermi, cioè come se ci avessi la pressione bassa o troppo alta. Diciamo le orecchie mi fischiavano. Boh, cioè bevi l'acqua e ti fischiano le orecchie. Oh, Gianni. Sicuramente c'è qualche additivo, qualche cosa che, a cui magari lui è intollerante e gli fa reazione brutta. Non fa niente. Sono bevuto la birra. Bevo la lanciata e comincia a sentirmi fischiare le orecchie, come, non so, come se avessi la glicemia alta, cosa del genere, magari sono diabetico, neanche le somni, me li faccio controllare adesso, secondo me la lanciata ci ha avuto una rondezza e se la torna in culo. Prima la bevo per dire parecchia di quella lanciata, non mi faceva niente, adesso però per dire la mattina quando mi alzo prendo quelle merendine al cioccolato, non mi fa niente, per dire, sto bene, capito? Oh già, praticamente Pomponi è talmente assuefatto alla birra che anche l'acqua gli fa male. Sicuramente c'è qualcosa che non tollera e allora si manifesta con questi sintomi qua. Eia. Vabbè dai, riprendete, io mi devo truccare, mettere la parrucca bionda, la minigonna e poi sentiamo domani. Grazie, un trance della TV, non comodo. Ah, una transenda, sì. Ehi, fra un po'. Ah, per la condizione economica mi devo prostituire, è vero però. Allora adesso faccio la prova di quel baracchino che usciva male con questa antenna, mi sentite? Sì. Perfetto. Ok, adesso provo l'altro baracchino, un attimo, sta con l'antenna, il BL. Aspetta, non te ne andare. Fatti attenuare il segnale. No, vabbè se si vede in radio. Se bene di radio con l'antenna grande. Mi sembra strano, non so che provo, guarda. Eia. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esce bene di radio. Oddio, sì, esce di radio, forse appena satura, aspetta, fammelo sentire meglio attenuato, per quello te lo dicevo. Guarda un po'. Oh. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora, sì, quando è liscio è molto migliore. Quando è attaccato... sì, appena, un pochino, ma è capibilissima qua. Gianni? No, io ti ascolto bene, Lu, però hai fatto un passaggio unico contando due volte 10. La prima volta che contatto 10, insomma, il suono era migliore. Allora, guarda, questo è un passaggio, ok? E questo è un altro passaggio, ora un po', prova. Ah, io preferisco il primo. Perché cosa c'ha questo? La radio tende a sporcarsi, il secondo passaggio risulta più sporca, mentre il primo è più pulita. Anche io, Prova 1, 2, 3. Aumenta il segnale, sì, ti sporca un po' la radio. Ma ti aumenta il segnale. Ciao Tino. Ciao Marco, anche io Luca. La prima è molto migliore la radio, poi tende a saturare. Vabbè, comunque va bene così, dai, 1, 2, 3, prova. Questa qua è l'antenna di casa, non penso che stia strappando la radio. No, così va bene. Perfetta, va bene, cioè non è, sei al massimo comunque. Va bene, ma è la tua radio, non è quella che avevi poc'anzi. Ma quell'antenna là o stazionale alto, quasi 3, Tino, normale che uscivo a tratti. Quasi 3, non si capiva la radio, che è differente. Riesco a buttarle giù, non so la maniera. No, sono anche col cavo, convinto di... l'ho anche accorciato, ma nuda di qua. Vabbè, attacco la mia, giusto? L'ho provata qua giusto per vedere se era proprio di antenna, ma quanto vedo. Ma il segnale cambia da tetti, da così a così, cambia, guarda un po'. Sì, aumenti 10 dB. Vabbè, da. Non lo so, forse è stata modificata male, non lo so, vabbè. Dai, attacco la mia. Sì, 9.20, 9.25 qua. Guarda, puoi fare una cosa, se riesci a abbassare il watt di entrata. Eia Lu, io lo trovo in basso. Magari perdi solo 10 watt, ma è più pulita. Antonè, un'info. Conosci il MOSFET IRF520? Vabbè. Cazzo, ci ho fatto una domanda provocata, ti ho fatto. Un pugno. Aspetta, mentre hai fatto cosa? Piazzi di lineare. Stanco e scendo. Anzi, scendo e stanco per esattezza. Luca, poi per quell'antenna che mi hai chiesto tu su internet, guarda che quell'antenna va lanciata a computer tramite la pianeta LAND, hai capito? Wi-Fi, ragazzi, direttamente lì, 10 metri di cavo, ragazzi, l'antenna si è a posto e c'è anche tutto il bi di guadagno e funziona benissimo. E praticamente hai l'internet gratis. Esatto, sì. Infatti, se tu guardi, se passi domani a casa, te la guardi, l'antenna è installata puntata lì. A gratis. E se non mi basta quello, gli ho come si chiama, l'OPEG, Carlo Felice, che mi hanno dato il codice d'ingresso, mi hanno dato, per poter entrare. Cambiate l'indirizzo MAC. Sì, cambiato l'indirizzo, quello che è, ma meno... Vabbè, ci sono 4 siti, ci sono, sì, che sono aperti qua. Quindi figurati, c'ho la... come si posso dire? Uno o l'altro. Vediamo un po' quale è migliore. Comunque l'altro giorno ho fatto fino alle 4 del mattino e funzionava benissimo. Ho fatto una fotografia su Facebook, già l'ha vista Luca, quindi figurati tu. Segnale proprio scala 5, quindi con quella specie di antenna. Io alla verità pensavo che ci voleva tutte, ma poi ci ho pensato, ma se io ho detto di stanno, ho detto questa qui e c'è la stessa aggancio, funzionerà. Dopodiché ho preso, ho provato 10 metri di cavo, perfetta, se ne metto 30, allora funziona lo stesso. C'ho due corsi di quelli, non solamente uno. di quelle pennette, una di un tipo o dall'altro. Che cavo hai messo in breve? 58M. Cioè, hai messo RG58 su 2400 MHz. Vabbè, ascolta, qualcosa passerà, ma lì ci vogliono cavi a altissimo guadagno, cavolo. Ma è critica la cosa, va bene, dai. Per te va bene, avanti. Mi cavolo adesso io, era già pronto il cavo lì. Se tu vai da Eurasia, c'è il cavo da 10 e il cavo da 30 metri. E RG58, l'ho visto io, l'ho controllato, è RG58. L'unica cosa sono i connettori, che sono placcati in oro, già fatti dalla loro fabbrica, perché a farli io, sta tranquillo che non li farei, perché è un casino a farli. Però è così, e funziona. Sì, vabbè, ma se tu hai cavi per quelle frequenze, cavi proprio alto guadagno, tu non ti colleghi a 50 metri, ma ti colleghi a 2 km, a 3. Vabbè, non scendiamo al dettaglio. Vai, Tino. Cosa vuoi che dica? Comunque, sì, funziona benissimo, ho visto. È perfetto, se è con lo scala, se giro a Austria, sono sicuro che piglia anche a Austria, sono là. Vabbè, la vento subito, sto scendendo il lineare a Daniele. Attento, non cadere dalle scale. Stiamo cadendo dalla scala, ammazza degli invali. Che diavolo, i cinesi vendono danno le antenne a altissimo guadagno, vuoi fare con la RG58? Ma non ti nandi, vabbè. Vabbè, Pompù, se dovesse cambiare, cioè, se magari qualcuno l'attacca, dove ti attacchi dopo? Io pago 80 euro, quasi 80 euro ogni due mesi, però chiamate limitate, internet 24 ore su 24, posso chiamare anche fuori dall'Italia, senza problemi, pago 76. Vabbè, Pompù gli ho spiegato però che è una cosa un po' delicata, collegarsi a un wifi per quanto libero devi richiedere l'espresso consenso, perché è un po' delicata la cosa, c'entra qualcosa con l'accesso abusivo al sistema informatico, perciò ho detto cambiati l'indirizzo Mac, almeno non risalgono allo smartphone che lo usa o al computer che lo usa. Avanti, dai, riprendete voi, devo farmi la pera, devo prepararmi, dai. Gianni, già, riprendi. Buonasera, sono rientrato. E a proposito di quelle antenne lì e cose, è un po' confuso se questo qui ha denunciato uno che si metteva in macchina sotto per prendere il wifi. E l'ha denunciato, i carabinieri sono arrivati e l'hanno litigato, l'hanno preso. Perché ci metteva sotto casa sua per avere il collegamento wifi. Non è che sia lecito, mi sa che non è una cosa che si possa fare. Già, io già me l'ho studiata un po' la roba, per quanto sia aperto per incuria del titolare, no, che ha il wifi, cioè chi lo lascia aperto è un pazzo, perché chiunque si può collegare, fare danno, fare terrorismo e poi cercano il padrone del wifi, capito? In poche parole, senza l'espresso consenso non puoi entrare, anche se è libero, senza password. Vabbè, i trucchetti non ve li spiego, è roba delicata. Oh già, ma tu l'hai vista la foto della mia pennetta? No, no, l'iniezioncine. No, l'iniezione che fa? Aspetta che non ti ho sentito, riprendete voi, dai. Appena tu chiedi. Eia, poi dopo tre mesi sospendo perché non era obbligatorio ed era anche non ha avuto effetti né positivi né negativi comunque. E allora c'è l'ultimo effetto che cavolo ha voluto fare, perché si finisce ancora qua. Serviva a pareggiare il bilanciamento degli ormoni, capito? Andare in pari per non alterare i valori. Vai, Rubrofè. Eia. volevo dire una cosa. Luca, la radio che stavi usando, che adesso, cioè che stavi usando prima, quando stavi uscendo così, se si può dire che radio è? Luca deve essere impegnato, forse Poi chi è rimasto qua già? Eravamo io, Antonello, vabbè, Marco si è spostato, e Tino, c'era anche Tino, però non so se c'è ancora. Sì, ci sono intento a togliere una spina dalla mano, caspita, credimi che è un po' in fondo, sono impegnato con l'ago, ok. sono abbastanza fastidiose le spine, mamma mia. E niente, gli altri si sono andati a caricarsi, dai. Cavolo, che vizio che ci abbiamo ad andare a mangiare, cioè, lui, ma ce lo togliamo a scusate, sono morta. Poi c'era anche roba di pallone in mezzo, quindi anche Claudio ha detto che andava a mangiare qualcosa e si vedeva la partita. Io dice le Iene mi pare, sai che vado anch'io quando le Iene, che non me ne è fatto male a puntare. Ah, io passo. Che se... c'è stasera Barbara D'Urso live nuda. Ma cosa? Magari. Ma ti piace Barbara D'Urso? Sì, francamente sì. È una bella donna, anche se è un conchetta. Ti aggiungo e mostrarsi. Poi una bricconcella, io credo fosse castigata, invece negli anni 80 usciva su Playboy nuda quando era giovane e meritava, merita tuttora, volendo. E la gente che si è concessa per fare carriera. Dovevo nascere donna io, sarei stata la più di Sassari. Vabbè, magari no. Avete presente l'anguria, no? Quell'anguria che uno raddaglia, che è insomma, quell'anguria leggermente bianca, che praticamente quando la mangi non sa di niente. A Sassari si dice sciabida, cioè quella donna è sciabida. Sì, fa la ragazzina, ragazza, e ce l'ho chissà, come si chiama quella tettona, quella... bionda, che ha... mamma mia, quella bionda, aspetta, c'era solo a puntare la lingua, vabbè, quella è svampita però, fa la scema. Cipriani, due palloni da basket. Mia. Ma perché si rovina? Non è una bella donna, ragazzi, si fa queste tette che qui da grande voglio vedere la sbilancia nell'avanti. Ah boh. Vabbè, comunque la televisione considero TV lobotomia, poi l'informazione è tutta a senso unico. Gianni già mi capirà cosa intendo. Se vuoi fonti alternative devi andare su internet, perché la TV è... siamo la TV di regime, dai. Vai, profeta. Stanno anche praticamente chiudendo anche la mossa piano piano su internet con la storia delle fake news. Utilizzando lo spauracchio delle fake news praticamente stanno chiedendo un sacco di blog. Sì, vedrai che l'internet del futuro sarà come la televisione, ci arriveranno. A me se dimono più di Berlusconi, almeno le tv media sempre sono dimono più di Berlusconi. E si è preso anche per radio, adesso 105 e qui un'altra per parte di radio. Berlusconi dice che pochi mesi fa voleva entrare in politica per salvare l'Italia, lui. Ma se aveva detto che in politica non sarebbe più entrato, adesso ha cambiato idea di nuovo. Aspetta già che sto preparando la foto da mandare. Cavaliera. E io di quelle pennelline faccio 3 al giorno. Crocro. Mamma mia. Oh yeah. Oggi mi sono fatto di bene con la macchinetta e ogni voce so che è magnazzona. Allora sei come io qui? No, non me li faccio, non sono totalmente a zero. Praticamente uso l'ultimo spessore, lo spessore minimo della macchinetta, ma non sono a zero. Aspetta, allora. Tipo la barba che sta appena spuntando, vedi? Più o meno, ci siamo. Vabbè, se comincia il caldo già va bene. Ah, è doppio rutto. Ah, è il Cristian. Sì. Adesso bene mi ascolti già. Vai, un attimo di mani. Prima il copre fuori frequenza, c'è stabile sempre. Perché ho stazionarie, no? È normale che poi esce male il baracchino. Lo sai, no? Stazionarie a tre giù. Non riesco a buttarle giù in una sola maniera. Anche con la magnetica ho provato, con la tenna fissa della macchina, la PL1000, nulla, non riesco a buttarle giù. Sempre tre. E allora è tutto veramente la pena. Quello, magari c'è il muro, non fa passare le onde. È quello che si crea problemi, si fa trovare un rientro. Se non ha una libera, per forza è così. Ah no, no, cioè non ti conviene usarlo perché ti fa passare i filati con le stazionali così alte. Massimo è un rientro, quindi ti avrà mai stazionato. Ma infatti non lo attacco neanche, ma sono per ascoltare. Ho notato che ricevevo molto molto meglio prima, forse tutta l'acqua che ha preso, anche se mi ha messo l'isolante sotto, no? Nel PL. Però a piglia due va antenna, ma di brutto. E vabbè. Questa qua ne ha preso acqua, vento, caldo, che è sempre perfetta. Io viaggio quasi ogni tanto nella mia questa avrà 8 anni, 10 anni, boh, non mi ricordo come l'ho malata Claudio. Comunque 8 anni di buoni ce li ha. E la mia l'ho scesa solo una volta per pulirla e basta, perché stava andando stazionaria, perché c'aveva con la piastra dove c'è, si attacca il piede, quello lì era finita, l'ho cambiata, ripiazzata. E adesso è buco. Infatti le devo mettere lì nel, c'è un quadrettino, no? Che c'è cosa della licenza e c'è tutti i bollettini pagati, adesso aggiungo anche quello del 2019. Te lo ricordi quando abbiamo messo i radiali, che noi abbiamo messo, l'abbiamo fatto insieme, te lo ricordi? E certo non lo ricordo. Beh, sono riusciti lo stesso a rompere il radiale pieno. Ah, ma carità. Tu me li hanno buttati le comandi. Non sai dove è debole, dove abbiamo fatto passare il bullone passante, che abbiamo fatto di sudire il radiale lì, crea capito attrito quando salta e si è spezzato lì. Già, quelli è un casino, o fai un foro più stretto, metti una vite più stretta, perché il buco più grande lo fai più diventa come si dice? Non regge molto, capito? Se appoggia una cornacchia si è fregato. Ma lì ci vuole una boccola, a me c'è le boccole nuove e fatto il gioco. Cioè diventa più debole, dai. Allora devo mettere 2018-2019. Inviata. Luca, la radio che tra virgolette ti stava dando problemi, si può dire che radio è? Un Mobicom, MB40, quello con il frequenzimetro. Ah, ok, ma ha preso umidità per caso? Negativo, no, perché? No, proprio per il problema che ti stava dando, nel senso che magari cosa ne so, nel PL insomma, magari c'era un po' di ossido nel PL o roba del genere, della radio, insomma, qualche contatto un po' così. Beh, la tenda sicuramente avrà acqua, ne ha preso perché è fuori, la baracchino no? No, vabbè, non sto dicendo che il baracchino ha preso acqua, dico, però sai, magari un po' di ossido, un po' di tra virgolette sporcizia nell'attacco lì dell'antenna. No, negativo, no, non è a posto la radio. Sicuramente le intemperie ti hanno mandato, insomma, ti hanno compromesso l'altra antenna, dai. Sicuramente sì, vabbè, comunque, non c'è problema. Già, allora, aspetta, ti dico quando. Allora, 2007, 12 anni c'ha quell'antenna. No, aspetta, no. 2006, 2005, 2005, 14 anni. È arrivata. Io ho fatto di nuovo il tutto nel 2005. Perché avevo anni che non entravo più. 2005 a 2019 sono 14 anni e c'è un'antenna. Beh, anche io ce l'ho fatto tempo, la mano qua io ho sempre l'antenna che ti dice. 50.000 l'antenna, ma la mano è quella che dura di più, è quella che ti dà meno problemi. E dopo c'è sempre con le diceva qualcosa per il 1258, io ce l'ho il 1258 per tutti questi anni, immaginati tu. L'ho cambiato dopo 3 mesi perché è entrata acqua e l'ho dovuto cambiare tutto, però ce l'ho quasi inventato nel 1258 che c'è, va sempre bene, non c'è né siccato né nulla, sempre a posto. Ah, beh, certo, vabbè, ma se va messo dentro il corrugato, ti dura, no, 20 anni o 50 anni? Non ho messo niente dentro il corrugato, già avevo visto come l'ho messo, è libero, scende così. E non mi dà staffelare, c'è uno e uno di staffelare, capito? Sono sempre in tutti i canali, anche sopra sono andato per vedere, in tutti i canali c'è uno e uno, uno e due al massimo. È positivo, no? Quindi vado anche io, devo andare presto, andare un po' a Montanuccio, verso Valle Duria, allora Montanuccio, perché è lontano, non è vicino, a fare un po' di lumache, e ce ne sono uscito un bel. Oh. E con un amico devo andare, alle 4 e mezza l'appuntamento, domani mattina, devo andare alle 3 e meno 10. Cavaga, e dici da Valle Duria, e lo spara, ce l'avete più trovato. Ma poi oggi non ce ne sono più già. No, alle 4 meno 10 devo alzare. Appuntamento tra la cosellata, cambiarti, fare colazione. Alle 4 e mezza. No, la scuola oggi ormai è tutto burato. Infatti perché quando io vado a fare i piloti ci sono le piante fiorite ma non ci sono le asparagi. Non è troppo mai in corrivo. Era messo più liquida, c'è più per quello. Andate. E andate verso il Valle Duria, vediamo un po' se ne trovate, ma non va che grosso. Ehi vabbè, là, non è un po' di lumache, ma è facile, lumacconi. Cambiati troppo. Riprendi già, me la sento 10 minuti, devo portare il cane e fare l'insulina a mia madre. Almeno ha fatto male, che non ce la faccio, sono tutti tutti. Avanti già. Ehi, mi è sembrato di sentire qualcuno fischiando sotto. Avanti, chi vuole entrare? Boh. La gente su Bruxelles, ancora. Questo va, magari Eugenio è arrivato a casa. Perché Eugenio è entrato? Sì, praticamente si è arrabbiato praticamente perché stavamo facendo ping pong, cazzo, e lui in barra mobile chiaramente arrivava a basso e praticamente gli altri non lo sentivano. Poi a un certo punto abbiamo lasciato un buco e si incazzò e si è bruciato a bozzi. Allora io lavoro a Portottoli, sai quando arrivavo qui a Portottoli da mezzo palazzo, da quando partivo dal lavoro sino a Sassari ero sempre 9-9-5. Però devi avere un bel impianto, se tu c'hai un impianto scarso non puoi pretendere che l'altro ti senta, è un casino. Idem, anche io. Cosa? Anche io avevo lo stesso impianto tuo, aiutato, Sì, però io c'avevo anche l'apparato modificato. E andavo sempre per segnare i lì, mi sentivo la mente parati, questo già lo sai, parlavo da conduttore, se poi me lo sono tolto dalla macchina, però quando avevo l'altra macchina era stato il primo a Sassari dopo che avevamo ripreso a modulare che aveva il baracchino in macchina. Infatti tutti mi guardavano, questi ragazzi che mi guardavano come se fossi un extraterrestre quando vedevamo l'antenna, c'è volte nel 2001. Allora tu lo sai dove l'ha accorte, sì? Certo che lo so, ma non lo sono mica istinti. Io lavoravo lì e allora mi avevo piazzato il baracchino proprio per il viaggio così, no? Giusto per... Però questo arrivava 9:10 a Sassari con il 48 e l'M200 avevo allora. Ma culo se si attrizza va bene, lo sento, ma se non si attrizza la può prendere in tenda con un baracchino con 5 guardi da prendere il palazzo non ce la fa, ma sentire. Allora già, io poco fa ho sentito Eugenio che stava cantando, però era basso, in confronto voi quando stavate facendo ping pong, come giustamente hai detto tu, non poteva pretendere che lo facevano entrare, stava proprio cantando, come uno che voleva disturbare, capito? Capa, vabbè, l'ho detto senza nessuna vera polemica, ho detto che... Cioè, quando praticamente è entrato ha detto cazzo se ti fai di ping pong, cioè l'ha detto ping pong, non l'ha detto io. Era giusto riportare quello che ho sentito, no? Senza nessun tipo di polemica. No, vabbè, lo accetta. È che come hai detto Gianni stesso, doppio lungo, quando sei una persona bassa non puoi pretendere con delle stazioni vicine come siamo noi, a meno che c'è un po' di bianco, allora capita di sentirlo. Io l'ho sentito, ma lo sento che stava cantando, ho detto, ma forse uno vuole cercare di modulare a noi, tra me no, poi invece l'ho riconosciuto, ma ormai era già tarda la cosa. Sì, non è stato fatto un certo formale, io lo so. Io a volte lo sento passo passo, perché non lo sento, io lo sento passo passo, lo faccio entrare, quando lo sento. Però se lui è mezzo palazzi, con quell'antenna lì, con quell'antenna piccola, non arriva. Prima c'era la Turbo 2001, io avevo sia l'antenna che gli apparati puri, capito? Lo so, un attimo, oggi mi stiamo passando i messaggi e quant'altro. E così, no, non sto dicendo che l'abbiamo fatto, è che sinceramente io lo sentivo 1-2 neanche, e con segnaloni qua 9-10, 9-15, quindi cosa vogliamo fare? Ma infatti, non certo lo fa, si fa per molto mezz'ora, per carità. Fa sempre piacere quando andiamo gli amici. Ehi, ascolta Tino, hai detto che hai lavorato per un po' di tempo alla corte, quindi non so se hai avuto l'occasione di conoscere Agostino De Roma. Agostino, con i mafi per caso? Negativo. No, perché io Agostino ce l'ho conosciuto, però no, guarda, io ero più a contatto con la famiglia dei Rio, mi dimentico anche i nomi, allora di Manunta, e poi te ne dico un altro se me ne ricordo. Manunta che è? L'ho visto che già l'aveva messo in pulizia. Poverino, Gabriele Manunta è morto, anche giovane, poverino, camionista. No, perché io Manunta non lo scuro di quella zona lì. All'aveva messo di cugini, vede cugini. Prima facevano un trasportatore, poi si è messo alle varie cugini. Vabbè, ci riportava anche a noi. E vabbè, quella zona lì, già la conosco tutta qua, perché qui c'è la campagna anche non cognato, la zona della Croce. Tutto di fronte al video. Anche se è tutto bello, quella della corte, c'è la campagna. Sì, ho capito, no, io ho lavorato per anni, quindi. Poi ultimamente il mio ex principale sono preso anche un pezzo di terreno lì a Monte Riposo, che è una zona lì poco prima di arrivare all'entrata della corte, sulla sinistra, si chiama Monte Riposo quella zona. E avevamo fatto il vigneto, diciamo, un sacco di uva lo abbiamo piantato, anche quello. Ciao ragazzi, andava bene, chi è rimasto? C'è un problema oppure ancora in ruota oppure c'è andato via? No, probabilmente è andato, si è spostato per consegnare il finale a Daniele. Il favore a Daniele. Tino, c'è Basticato lì, quindi conosci anche il Parco Lugantaro? Ma io alla corte ho lavorato, ho fatto anche degli scavi per una ditta proprio nella strada della corte. I nomi hanno dei nomi particolari, tipo penso, la roba della bagassa, non è una roccia, la chiamano così, proprio perché è una forma particolare, insomma, due rocce aperte e quant'altro. Poi ti ripeto, Monte Rifuso, poi c'è un'altra zona, non mi ricordo il nome, un break and back, c'è di bello. Il posto è bellino, solo che è un po' difficoltoso anche arrivarci, se non puoi entrare a salirci lì è un po' difficoltoso, dai. No, non mi ricordo, magari se mi dici la zona presso poco, intanto la corte bene o male la conosco tutta, dai, non c'è tanto da conoscere. No, vabbè, siccome ho un amico, ci sono stato un paio di anni, che praticamente lui c'ha alla fattoria con le pecore, e praticamente punta Canistreddu, praticamente lui sta nella l'altro monte che si è attaccato a Monteforte, mi. Ah, Monteforte, andavamo a cacciare lì stesso, io dalla compagnia della Cotec, ma sono una ragione perché poi me ne sono andato perché non mi piaceva, troppa gente, praticamente quasi tutti della Cotec, ma più che altro c'erano anche un sacco di bambini che e a me con la caccia è un po', non lo vedo in particolare proprio per farla fare ai bambini, ecco. Vabbè, ok. Sì, ho capito la zona comunque. Bene meda. No, no, ti ripeto, ci sono stato un paio di anni lì. Adesso praticamente in città non riesco più a starci. Capito. È difficile, non... Quando gusti determinate cose, poi, cioè, tornare indietro non è più possibile, adesso infatti vediamo un po' cosa succederà nel prossimo futuro. Oh, Giulia, anche la campagna, la campagna già, cioè, la città, mamma mia, cazzo, mi fa impazzire, cazzo, già solo il traffico mi urta notevolmente, non so a voi. Ma io sono in periferia, io sono attaccato alla veloce, quindi ho tutte le comodità tra scuole, negozi e quant'altro. La rotta di scatola che si diceva una cosa, insomma, devi prendere la macchina, perché giustamente io sono a 3 km dalla veloce in di strada, non in linea di strada. Certo, vabbè, comunque. Senti determinati rumori, cioè il tutto il tran tran, insomma, quotidiano, io praticamente qua di traffico ce n'è cazzo quanto ne vuoi. Guarda, adesso non voglio esagerare, ma tipo, non sempre, ma ci sono giorni che ogni 10 minuti passa un'ambulanza. Purtroppo. Io ho fatto un'altra stamattina, una in queste zone che è rara, però adesso uno si è sentito male e quindi giustamente l'hanno chiamata. Doppio room, ci sei ancora? Mi sa che è dovuto scappare. Io mi sto rollando una sigaretta nel frattempo. Scappa. Adesso si sta trattando di aiutino. Daniele. Ehi, ai miei bizzarri, 4 mancudezzi. Beh, ciao ragazzi. Sì, addirittura. Ascolta, guarda, se ne fai tante, non lo fai sapere. Oh, non ho capito tutti. Se ne fai tante, non lo fai sapere. Guarda, mi hanno garantito che ce ne sono non di più. Infatti questo mio amico si è portato 2 secchi. Non uno, 2. 2 cadetti da dinta. Ma io ti auguro di riempirne uno, guarda. Vabbè, perché oggi è andato l'amico mio, stasera cosa è stato un po' di vento, già ne ha fatto, ma non so quanto l'abbia fatto, intanto per me ne ha fatto, già va bene così, non è stato lì a dire quanto ne ha fatto, però per me però si è messo il vento, quindi lo sai come c'è il vento, si ritirano. Io mi ricordo che l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, vabbè, comunque ho fatto un secchio quasi pieno, 10 kg di lumache, tra lumache e lumacconi. Buono. Mi ha giocato quasi tutta in dinamica, vabbè, una pacca me l'ho mangiata. Capì, se lo sapevo prima sarei venuto anche io, tanto domani sono libera, anche dopo domani poi adesso pioggia, quindi mi sei organizzato, dai. Io devo andare da una quarantina di chilometri da qua. No, questo è andato qualche vicino. Sì, ma io non sono un po' tutti, ce n'è un bel lo stesso, ce n'è un bel. Non hai bisogno di scizzi in casino, però dice qua ci sono un bel di lumacconi. Ma vabbè, vai, vedilo là, lui. Se ti conviene andare, sei un posto in più. Vabbè, adesso vediamo, allora, vediamo quello che ne esce. Il vento non ce n'è per il momento, poi pioggia non ne ha messo, ma cazzo l'ombra mi sono dimenticato, ma vaffan Napoli, vabbè, in macchina. Niente, ci provo, ti serva la sua pazienza. Va bene, dai, vi lascio ragazzi, preparo due cosette poi, al limite se coincide più tardi, che ci siete, sono pazienza. A domani, ciao, vi saluto. Eia, ciao, dai, Tino, ciao. E ciao Gianni, ciao esatto Gianni, Gianni Doppio Room, Marco, boh, ce l'ascolto, buonanotte, domani, ciao. Ciao ragazzoli, dai, buona serata, ci aggiorniamo. Eia, ciao. Eia, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Antone, guarda un po' cosa dice. Quasi 9.30, sì. E dopo la tappetta dei 20. Sì, ce va bene. Ma quanto è l'ingresso questo, Antone? 15 watt li puoi mettere. 15, quindi posso aumentarli i watt? 10, non 15, 10. 10. Aspetta, guarda quant'è adesso, aspetta. Così è 5. Questa cosa non sale più di 5 adesso. Il macchio. No, è il rosmetro. Il rosmetro mio è inciudato. Mi segna 5 watt. Quando attacca via metto a 100, ma se la scena, sì. No, non hai capito, io sono staccato adesso. Sto guardando, infatti la radio, ma ne segna 5, 6. Ho capito, invece quando attacchi devi mettere lo 6 a 100, no? È logico. Guarda, così sono liscio. Sì, ce va bene. Guarda così cosa dice. Quasi 9.30, sì. E la radio è buona. Appena, è comprensibile, è perfetta. Se no abbasso lì. No, non c'è tale nulla la radio, è a posto. L'audio è a posto, hai capito? Quindi va bene. Quante volte ti sta tirando fuori quelle... quella specie di wattmetro che c'è inserito? Due tacche dopo il 20. Ah, io vorrei abbassare 60, dov'è? Intendi. Oh, io lo sento sattolo. Ma io già lo sento comprensibile, grazie a Dio. Contento tu? Aspetta. Guarda adesso. Ma lo sai come ti sento, va? Sì. Aspetta, guarda adesso. Se tu mi dici guarda adesso, fammi un passaggio un po' lungo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Quasi ci si, dai. Aspetta, guarda, ora. Guarda. Perché c'è casino qua? No, così è... non so, stanno intorno ai 4 watt, 5 watt. Ammazza ancora. Il radio, sto parlando. Guarda, ora. Aspetta. Guarda un po', ora. Stai migliorando notevolmente, come radio, parlo. Puoi segnare, non te lo posso guardare qua perché ho l'altro apparato. Aspetti, non puoi fargli abbassare il watt d'ingresso per avere i picchi positivi, quello non esiste, capito? Perché a un certo punto uscirebbe come te, farsi anche schifo addirittura, cioè in pratica arrivi a segnare 5 di portante e 9.20 di picco, cosa te ne fai? Non te ne fai niente, il discorso è quello. Cioè segnale di potenza e cosa deve essere stabile, non a picchi positivi, non vale niente, è come la penso io, sì. Vabbè, io sto usando un watt, se no te lo posso anche alzare così e i picchi sono anche di meno, vedi? Allora cambia la cosa, ci avete tutti la stessa identica cosa, cioè anch'io se io metto un watt e mi metto un da 600, è logico che la radio aumenta, certo punto, e poi c'è il picchi che viene fino a per dire a 500 watt, non vale nulla, perché non vale assolutamente niente, non sei in camion, sei in casa, il discorso è quello, per come la penso io. Poi non c'ho l'effetto di cosa, vabbè, già mi hai capito, quindi non vale nulla, c'è un barattino che è normale, tutto lì. Quindi il vate verso di quelli, l'ingresso è fatto anche l'uscita, tutto lì, non c'è solo altro. Prova adesso. Che ho capito, Antonio, se tu noti io, guarda il vate come ce l'ho. È stabile, sì, quanto fa di portante, non è che ne ha fatto di picchi modulati, non è che è fatto. Se abbasso tutti i watt, allora è logico che fa più picchi positivi. Sì, 9,5, sei a posto, sì. Poi, vabbè, va bene così adesso. Oh, però io lo stavo utilizzando così, a 2 watt, e poi picchi positivi magari andava allo stesso segnale di quanto mi leggi tu. Quindi cos'è sbagliato? Secondo me cos'è sbagliato? Sarebbe inutile, cioè usare un barattino che esce dal watt, dopodiché con il lineare piglia il sale, non te ne vai proprio dubbio, non stai usando un apparato di quelli per dire con quell'effetto di corte o qualcosa del genere che va bene così. Questo è un apparecchio normale, non può farci niente, non può farti da accettare, cioè che c'è il doppio modulatore che sale di picchi eccetera eccetera, quello su cui c'è non basta, non altro in tiro, te lo sai, niente di nuovo, comunque sì, va bene così. Allora, Daniele, io ti ascoltavo meglio l'ultimo passaggio che il primo, poi fai quello che vuoi. Secondo passaggio siamo a posto, prof. Guarda un po', Antone. Ora, 1, 2, 3, 4 e 5. Sono 9,25. Radio 5, ma appena compressa, ma non molto, la verità. Quindi sei, perlomeno sei tranquillo. Vabbè, poi a distanza dovrebbe essere meglio. E adesso com'è, Antone? Sempre satura? Aspetta, provo. No, così è accordato. Non va di più. Quante volte ti dà? Cioè, quante volte? Fino a dove arriva? In fondo arriva? No, non ci arriva in fondo adesso, Antone. Adesso è sceso. Adesso è a 18. Vabbè, cioè vabbè, allora se tu scendi di watt adesso, fa come voleva come dice Tino, in pratica, scendi di watt e c'hai i picchi, hai capito? Perché è logico che metta la radio, se io mi diminuisco di watt, di qua per dire, lo faccio vedere, no? Eccolo qua, lo vedi? Sono un watt, Ora. Non so questa cosa. Non lo so. E aumenta la radio, guarda. Adesso sono nuovo. A manettone. No, è la cosa che questo viene. Ascolta, Daniele. Sono un passaggio attaccato. Aspetta, che è stanco, che lo devo scaricare prima. Devo scaricare un camioncino, vai. C'è il tre pulsanti, c'è, lo sai, e lo spini. Adesso è stand by. Allora, adesso tu stai facendo da 7 a 9, da 7 a 9, tieni presente quello che ti sto dicendo io. Adesso attacca. Da 7 a 9 stanno allo strumento di suono intorno ai 2 watt, dai, vabbè che questo ormai è andato a farsi fottere. Aspetta che attacco, aspetta un secondo. Guarda adesso, ora, 1, 2, 3, 4 e 5. Mi hai sentito, sì? No. Adesso sì, 9, 10, fisso. K, posso aumentare, se la radio me lo permette. Fino a 10 puoi aumentare l'ingresso del lineare, fino a 10, non di più. Però non so quanto stai suonando, Antone, così sono... Ma intorno ai 2 watt dallo strumento, guarda Adesso sono a 20 dall'altro strumento. Vedi, troppo qui, cazzo. Diminuisci a 10. Non hai capito, no, a 20 dallo strumento di quello che mi hai dato tu. Ah, Delia, vabbè, già lo so anch'io quello. Non mi ha detto in pratica sì, non ho capito. Così la manetta quando sale a 20, a 25 non ci arriva, no Antonè? Già ci arrivo, non ti preoccupare, fallo scaldare, vedrai che c'è arrivi fino in fondo, fra 5 minuti. Antonè, quello è come quello che avevo io, per volare, che anche quando scalda sale un bel, fa 200 watt, ma la radio è sempre satura, poi, vabbè, fate come volete. Aspetta, no, siccome lo stavo usando da un po', e sono riuscito a far arrivare a 25 quasi. Però mi avete detto che ero saturo. Quando avete sentito era 25, a te l'ho già capito. Aspetta. Allora. Ecco, adesso è salito un altro po'. Guarda adesso com'è, 1, 2, 3. Vedi che più chiaro adesso. Siccome l'ha appena acceso, quando va a cortare, è logico che è stato là. È un via a valvole mi. Hai capito te? Quindi quando prima di. Ce ne vuole almeno una mezz'oretta, un'oretta, una cosa del genere, in modo di stabilizzarsi, già lo senti tu. Ehi Antonio, ho capito. Ma cosa vuoi ti dica? Io ti sto dicendo come lo sto ascoltando. Se poi cosa vuoi ti dica? Così io ti sto dicendo come lo ascolto, poi a un certo punto fate come volete. Se volete un mio giudizio ve lo dico, se no va bene così, va bene. No, io so chi vuole, no? Non ti sto dicendo niente di quello. L'ha appena acceso, il discorso è quello, hai capito? È un lineare vecchio, che c'ha due manopole, non avrebbe bruciato un 31, il discorso è quello. Quindi devi aspettare, piano piano che si stabilizza la cosa. Siccome i condensatori non sono più quelli modello vecchi, ma sono quelli modello nuovo, purtroppo, devi aspettare almeno una mezz'ora. Il discorso è quello lì, ti hai sentito da me come lo usavo io con lineare, 10 watt, quindi figurati tu, ma te lo ricordi? Ehi, Antonè, allora, io ti posso dire una cosa, guarda, quel lineare nero che tu già conosci, tipo il giambo, giusto per farti capire un po' la grandezza dell'apparato, lo accendo la mattina per usarlo la sera, ok? Quindi è caldo, non fa mai, tutto quello che vuoi, mi dà circa 230-240 watt, è sempre in saturazione. Figurati, allora c'è qualcosa che non va. Il bello è che ti aumenta 35-40 dB, però la radio se la mangia. A quel punto cosa ho detto? Ne tolgo quello, ci metto un 747 e va pari quasi quanto quello. È più piccolo e non distorce, te lo sai. Ho capito come ho detto, invece dicono il contrario per le valvole. Di solito le valvole sono le migliori, perché la radio è meglio. Anche perché sei tu peggio di me, anzi meglio di me forse. Che meno le applicato della valvole per l'auto, perché sono le migliori che ci sono, hai capito? Solo che costano un sacco di soldi, il discorso è quello lì. Sembra che le valvole siano le migliori del transistor, ma il discorso dipende anche dal tipo di input, diciamo, perché è alta, tutto lì. Ahia, non so, quelle valvole sono belle, soprattutto quelle con l'accordatore ad aria, anziché quello, già ne hai capito, no? Quando accordi ad aria è migliore, solo devi stare ogni volta lì a accordare, sempre a fare, perché non devo che ti firmi, adesso puoi dire Daniele è un po' senza parlare, quando schiaccia di nuovamente accordare? Ah, una cosa che uno l'ha acceso, non c'è bisogno di più stabilizzarlo, devi dare un'ora di tempo almeno. Purtroppo è così, le valvole sono fatte così, non ci possiamo fare niente, no? Già lo sai anche tu. Ci adesso li apparate a valvole che sono una cosa allucinante, tipo gli effetti 250, che devi stare a contarlo almeno dopo 2 ore lo puoi usare, non prima, dopo 2 ore, se no esce tutto saturo, non si capisce nulla, eccetera eccetera. Io l'ho avuto e purtroppo ne ho le conseguenze, ma devi farlo scaldare le valvole, è come il televisore per dire. Una volta arrivato al regime suo, le valvole sono tranquille, invece il tassista fai veloce e va a far culo già a un certo punto. Ma giusto per comodità, giusto per comodità. Vabbè Dani, prova, dai. Ti ripeto, tu fai da 7 a 9, quando attacchi fai da 9 a 9 a 10. Guarda adesso, sa che è sceso un po', o sbaglio? Ora, cosa dite? Va meglio, va peggio, è successo? Va bene. A 18 deve stare, dai, aspetta a vedere. Deve stare... Guarda, 18, quasi 19, Antone. Com'è ti? Un po' saturo. Perché l'ho aumentato. Devo diminuire, se io diminuisco, guarda, infatti. Guarda, adesso, com'è? Adesso è migliorato, io sto andando all'orecchio, non sto neanche guardando lo smitter, perché tanto non cambia niente. No, già, quello non interessa a me il segnale, già me ne accorgo da fuori quando sto spingendo. Non interessa la radio adesso. A mio parere, io parlo a mio orecchio e poi, se Antonio ti ascolta bene... va bene così, per me è appena satura, poi non è chiara come giustamente come quando si è attaccato, si sente che si è attaccato. Vabbè, e adesso cosa dice? Non ha cambiato niente. Capo a Roggero, va bene, dai. Perché se sento così sono a 2 watt, dovrebbe essere. Ma io ti sento bene, è comprensibile la radio, non sto dicendo che... si sente che si è agganciato. Adesso mettiamo il girotondo a vedere. Magari vedi con quello camufli un po'. Guarda un po'. Cambio. È perfetto. Come è Antone? Va bene, va bene. Hai visto, con l'eco e magari puoi anche alzare di più. Cazzo di discorsi sono, scusa, come avere attaccato un lineare con microfono normale e l'altro con microfono amplificato, logico che è cambiata la radio, hai capito? Però se lui cambia apparato, gli mette un altro tipo di apparato, la questione cambia, perché io lo usavo con la 87, figurati tu, io ci va benissimo con il lineare. Io purtroppo con quello, la 87 non è che sia che mi dia di 5 watt, ma me ne dà più di 15 me ne dà addirittura. Ma detto, arrivo fino a 20, una cosa del genere di quelle strumentino che c'ha lui. È un mini amperometro in pratica, capito? Antonè, non sto dicendo che il lineare va male, sto dicendo, allora siccome so che Daniele, o perlomeno presumo che lui lo voglia utilizzare nel 45 a fare balduria, no? Allora, finché parla così con noi, che lui si mette ad attaccare a fare, si sente che è agganciato. Quando lo utilizzerà per dire nel 45 che si mette con l'eco va più che bene. Ti ho capito, io non ti ho mai capito. Vabbè, io metto, usalo tu la lineare, perché intanto io non sto usando per niente. A parte che ho roba da fare, quindi mi si guasta a un certo punto. E tu utilizzalo tu, ho detto, quel lineare e sei a posto, io ho detto. L'attacchi a quel barattino che c'ha e sei tranquillo. Tutto lì. Poi se l'ho pilota 2,5, l'ho pilota 10, non cambia niente. C'è un pulsatino dietro, lo sai, lo scudici ti è, che fa da MSSB, non è che ci abbia, cioè io come ingresso gli davo da 10 a 15 watt la verità. Antonè, cosa vuoi che ti dica? Io lo sento meglio quando lui abbassa il watt, poi se quindi ne puoi dare 20, dagliene 20, se ne dai 5 si sente meglio, se dagliene 20. No, vedi, no, ma stai scherzando, no, adesso ce l'ho quello, massimo 10, 15, uno di più, detto. Perché te li pilota, hai capito? Guarda adesso che ho abbassato ancora di più, com'è? La radio è buona ora, la radio è buona, non hai cambiato la modulazione. Quando tu gli dai troppo infatti di ingresso, allora va, tende a saturare. Sono, il vato è chiuso sempre. Aspetta adesso nel fare di più cicchicciac. No, è accordato. Antone è fermo al 15. E dice va bene allora, è perfetto. Cioè io ti sento bene. Possiamo mettere un vapor e picchi come fanno gli altri, tipo i camionisti, è il discorso diverso. E non serve proprio a niente, la verità. Io ti ravvello lineare, scusa, eh. A un certo punto esce a mezzo watt, ti prendi un baracchino un po' patile, mezzo watt, ti attacca lineare e si è a posto. Ti attacca nel frattempo e sei tranquillo. A un certo punto gli attacchi di effetto di cotolo, che è il discorso, più che altro la mania, che c'hanno un sacco di gente di fare così, e tu già l'hai visto stasera più di me, no? Cioè se un apparecchio lascia 4 watt, mettilo, lascialo 4 watt e basta, no? Non è che puoi scendere mezzo watt, un watt, per che cosa, per pilotare da un watt a 100 watt con i picchi, non serve a niente, non serve veramente a niente. Scusami Antonio, adesso ti correggo io, poi tu mi vedi a me, no? Ora su questo sto andando con picchi anche troppo, secondo me, come stai dicendo tu. Perché fa da 2 watt a 10-15 watt, ok? Ed è troppo forte, hai ragione, anche io ti do ragione, però nota la mia modulazione. Ora io mi fermo di parlare senza attaccare il dito alla portante e lo porto al massimo del watt e mi dici la radio se ha cambiato o meno, ok? Tieni presente questa modulazione e ti faccio il passaggio. Allora, adesso metto il watt e all'apparato. Ha meno picchi positivi, però tende un pochino a frottarsi la radio. Mi sbaglio o no? Allora, da 5 a 9 sono i picchi. Quando invece aumenti la radio, automaticamente potrebbe essere la radio più amplificata. Diminuisce appena appena, e tu lo sai più di me. Aspetta, vediamo un pochettino se riesco a vederti. Aspetta 2 minuti. Ecco qua. Ora. Ecco qua. Ecco, così sono con mezzo watt, insomma, in pratica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E invece così sono la maletta dei watt dell'apparecchio. Tale uguale. No, ma io sto parlando del mio apparato, non del tuo. Adesso io sto dando, ora, aspetta un attimino, se ne dà ancora di più. Ora, no, credo che non è... Sto andando qua, la radio com'è? Io non la sento, eh. Praticamente sto dando 15 watt. Sì, la radio è buona, il discorso è questo. Quando tu diminuisci il watt, la radio aumenta e tu lo sai per me. Se ti metti un radio a fianco, un portatile, quando te la accorgi subito, immediatamente te la accorgi. E quando diminuisci il watt, la radio aumenta. Hai capito? Tutto lì. Il discorso è quello. Eia, Maia Daniele, le voglio far sentire. Io ho capito, non mi spiegare le cose che so già. Gli voglio far vedere e far sentire la timbrica di modulazione che, mettendo il watt dell'apparato, come sto facendo io adesso, che ce li ho tutti alzati, tende ad avere una timbrica di radio differente da quella che abbassi. Se poi tu abbassi il watt perché vuoi una radio più forte, però lo aiuti con un amplificatore, è ancora meglio. Non lascia stare i picchi, che i picchi, vabbè, hai ragione, tu se devi arrivare a 9, non è che fai da 5 a 9 come faccio io, per dire, ti faccio un esempio, metti direttamente a 9, se va a basso, non va, arriva e ferma a 9, però per dire, io lo abbasso, una radio più forte, non è questione di camionisti come ti dico tu e lo metti in camion o meno, che se ti mettono casa il finco pallino o casa dei camionisti solo perché hanno l'eco, si viene dell'eco del corso. È la possibilità di far sentire anche la radio più forte e magari senza segnale, hai capito che voglio dire? Molte volte quando fai i DX che non senti, cioè non vedi il segnale però senti la radio, ci fa lo stesso, il corso è lo stesso, o mi sbaglio? Certo, quello sì, stiamo parlando della stessa cosa, è uguale identica la verità, comunque è servita. Stiamo parlando della stessa identica cosa, siccome un sacco di gente si è messo in testa, in pratica, se io mi riesco il watt dell'apparato, penso che è la cosa logica, mi metto 2 watt e dopodiché mi aggancio un effetto eco, cosa del genere, è logico che se attacco lineare i picchi salgono fino a, per dire, da 7 a 9 e 20 e cosa te ne fai? Non te ne fai proprio niente, il discorso proprio e non serve a niente, la verità, a parte che quei apparecchi sono dei lavandini, già lo sai anche tu, di su vabbè, già l'hai capito anche tu, non sono apparecchi da usare neanche in casa, quindi a un certo punto non devi fare proprio niente, ma lo solo metti in camera e basta, lui. Ma comunque sia, io sto parlando di watt proprio sui dell'apparato, facciamo che parte da 4, poi prendi l'aumento e passiamo a 15. E questa è questa. È sempre uguale, la radio, tutto lì. Dopodiché se li metti troppo in ingresso a lineare, è logico che appena appena ti diventa compresso. Tutto lì. Va bene, Daniele, riprendi. Dai. No, riprendo adesso, me ne vado a nanna io. Domani rifacciamo le prove. Adesso vedi, stai andando bene, quante volte stai dando? Aspetta, aspetta un secondo che sgancio. 1,5 Ma metterò anche a 2, a 3 di portante di apparato. No, 2 a 3 stavo andando già in saturazione prima. Capito. Adesso è 2 tondi, guarda, adesso aggancio. Guarda, adesso è agganciato. Accordato sì. Cosa? Sì, accordato. Aspetta che riaccordo, Cappa, adesso è accordato. Non vedi che devi sempre accordare tu quando... È così, eh? Adesso la radio va bene. Beh, c'è una valvola sola, che se 2 megawatt, il discorso è quello. C'è aperto il load, non è il Mufusion 31, capito? Il discorso è quello. Magari è stato quello. Invece è uno spirito di CTE, ma è un vecchio, quindi devi stare sempre a accordare. Una volta che poi hai raggiunto la stabilità, più che altro, la tensione aerodinamica, allora è un bombo, hai capito? Purtroppo il discorso è quello lì, per un'ora devi stare sempre a accordare, o esci mezzo salto, oppure cosa, poi preferisci, come si dice, bene. Non è il Mufusion 31, fosse stato il Mufusion 31 magari sarebbe stata una cosa differente, vero? Sarebbe stato più bello, ma questo c'è una roba, deve stare a ricordare, ma destra poi sinistra poi destra. Questo penso che è acceso da un'oretta. Da un'oretta e sono adesso che sta girando. Sei quasi 9:30, figurati. Sì, Daniele, ci sì, però ti ripeto e ti ricordo che tu dal momento che stacchi, attacchi, rifai, devi sempre accordare, se tienilo sempre sotto controllo e tu lasci di quel parte di entrata che hai ora e no, non vai in saturazione e non vai a strappare. Quindi così confermi che è perfetto, T? A mio parere sì. Ok, rifanno 2 watt almeno da questo qua, se poi di più non lo so. Questo si ferma a 2 watt il mio rosmetro. Questa Antonella è a 16. Sono 2 watt sì. Perché quando passo il 20 sono 15, io utilizzavo il 20, ci va benissimo. Mi ascoltava tutti bene, perlomeno mi ascoltava quando utilizzavo io. Un microfono amplificato, vabbè tu stai usando un altro apparato, quindi il discorso è inverso col microfono normale. Però se gli attacchi 987, in quel barattino lì, in quel lineare lì, te lo sto dicendo cambia, è diversa. Sì, è logico, Antone. Se gli metti un microfono più amplificato, guarda ancora di più. Questo è l'87, mio Antone. Microfono normale. Con quell'apparecchio, con quel tipo di apparato là, e come sai, il barattino normale che c'è stato, è capito tutto lì. Però se io lo do questo giorno io adesso, e lui lo installa lì a casa sua domani mattina, e se la cosa cambia, ma cambia è totalmente diversa. Questo è l'87, mio Antone. Cosa? Ma che cosa, è baracchino? K. L'87, è strano. A me mi fa totalmente diversa cosa, quando lo utilizzo, strano. Aspetta, se voglio li posso... Poco fa sono riuscito a farlo scendere a 25 io. 25 tondi e tondi stavo andando. Quando mi avete sentito saturo. Anch'io quando ce l'ho... Cioè, bello caldo sale a 25. Cioè, addirittura il picco è allucinante che vado fino in fondo addirittura. Il discorso è quello. Aspetta, vai, cioè, magari adesso... Stanca attacco, ma adesso sto facendo passaggi più veloci e da qualcosa in più. No, niente. 16. Se per andare di più devo dargli più watt in ingresso. Sì, chiaro, comunque in radio adesso. Chiaro, cioè, quando sei ammalato è proprio di cosa, sei appena santo, mi... ma poca roba, non è che sia molto. Ma adesso ti saranno 160, così è. Quanti sono adesso, Antone? A 16, guarda, non lo chiedo a me perché non lo so neanche io, la verità. Sì, già lo sai tu, c'è quel milliamperometro che passa da 16 a 20, cioè da 0 a 20, quindi 16 dovrebbe essere buono, 160 saranno una cosa del genere. Sì, 160 sono. 160, e posso dargli ancora più watt, qualcosina le posso dare ancora, prima di entrare in saturazione. Hola. Sì, 160, se arriva a 20 a Maipa sono 200 watt. No, a 25 l'ho fatto scendere prima. Magari salire. Cosa? Dico, magari salire. Vabbè, la lancetta è arrivata a 25. Allora, no, se 25 sono 250. Ho capito. Quindi 16 sono 160 a salire, ho capito. E guarda se gli do un'altra pena. Guarda, così sono 180 allora. Ma così stai già iniziando a compressare la radio. Però magari in lontananza e con l'eco ti sentono molto bene, hai capito cosa ti voglio dire io? Cioè, noi per fare queste prove qua siamo molto vicini, tu potresti fare questa prova qua con uno che magari è ad Alghero, allora ti dice, cazzo, stai arrivando tutto e la radio è bella chiara, hai capito? Quello senti. Comunque adesso sono 100... 180 sono. Aspetta, non posso rimanere più zitti. Mentre così a 160, 160 sì, visto con 2 watt d'ingresso, perché sto pilotando i watt d'ingresso con la radio. Ecco, magari quelle proverie puoi fare quando stai sempre parlando, che magari è bello caldo tutto quanto, allora lo fai, prendi, aumenti i watt dell'apparato quanto vuoi tu o quanto magari ne può tenere l'amplificatore, che ne so, magari ne metti 4, ne metti 6 e aumenti i watt dell'amplificatore, però poi cosa devi fare? Devi nuovamente accordarti. Quello sì, poi quando trovi la regolazione giusta lasci lì fermo, capito? Ma ok, però sei molto tempo che non ci parli. Bravo, sei arrivato a quello che ti volevo dire io, cioè sin che fai un ping pong oppure che fai dei passaggi molto lunghi con pochi passaggi di stand by, allora ok, ci sta. Se però tu in un QSO tardi un pochino di più, che magari l'amplificatore si raffredda, allora nuovamente devi fare tutto l'ambalan, devi accordare e così via, capito? Quello sì, ma adesso sto scaldando bene. Si sente proprio il caldo uscire. va bene. E Savarello, cosa dice? No, è accordato. Sì, accordato. 170 con 2 watt. Hai visto? Scusa Antonio, poi ti rilancio. E prima eri 160 con 2 watt, quindi mi stai facendo capire che più scalda e più sta pompando, come ha detto Antonello, ed è giusto che sia così. Però perché? Perché stai facendo dei passaggi lunghi. Tienilo sempre sotto controllo, ogni tanto lo accordi e vedrai che non ti darà problemi. E magari arriverai anche a toccare 200, che tu sei con 4 watt e neanche te ne accorgi. Hai capito? Poi se metti l'effetto elicottero ancora meglio, e in lontananza funziona per una bellezza. Io poc'anzi non ho sentito che stava ritorcendo quando ha messo l'effetto elicottero, capito? Andava benissimo. Vai Antone. Vabbè, ti dai che chiudo, mi sta facendo troppo tardi, un attimo a svegliare anche presto. Va bene, comunque adesso... Sì, lo facevo anche con un altro lineeretto che avevo, sempre a... Non mi ricordo se uno o due valvole. Accorda, riaccorda, sempre così devo fare. E va bene, dai, io ti lascio e adesso ne vado a nanna, in 144. Ci sentiamo domani se coincide, dai. Buon proseguimento e buona inizio di giornata. Ehi, cazzo, mi hanno detto a fare il culo il caffetto, boh. D'accordo, va bene Daniele, ciao, buonanotte, buon tutto, buon riposo e buon risveglio per domani mattina, vai ancora. Ciao Daniele, ti amo, se mi senti ancora. Quando scaldo il caffetto qui, se devo fare un culo, bisogna avere il cambio di caffetto per forza di questo macchino, io assorbe troppo. Ehi Antonio, poi domani facciamo le prove, dai, con calma. Buon proseguimento e buon tutto, ciao. Ciao Daniele, ciao. Vabbè dai, Antonio, anche io mollo. Ci sentiamo domani, dai. Oh Antonio. Ehi, il caffetto. Ehi, vabbè dai, se mi senti domani ti faccio una bacia. Che devo chiedere una cosa, dai. Va bene, dai. A domani, buonanotte, ciao. Va bene Antonio, dai, se mi ascolti, ma penso di sì. Anche se scaldo il caffetto già è quello che forse. Ciao, ti saluto, ci sentiamo domani, buonanotte. Tu, 3456 prof. Mi ascolti chi? Ti no. Ora.